Pensiamo, cioè, secondo me facciamo da Freud, un po', cioè almeno un accenno di Freud e Lacan, perché sennò poi non capiamo anche alcune sfaccettature del pensiero femminile, femminista. Allora, rispetto, non so come iniziarlo Freud, sinceramente, aspettate, mi riprendo un attimo. E vabbè, dalla vita. No, È no, breve, la veramente. Cecoslovacchia, Ebreo e perché... cecoslovacco, ebreo viennese, consumatore, ucraina, Viennese, spieghiamo tutto. sì, no, vabbè. Rispetto... Abbiamo Allora, tanto alla iniziamo... scuola Cioè, di diritto. allora, quando Freud inizia... No, sì. Allora, quando Freud inizia il suo studio, cioè non è l'iniziatore della psicanalisi o della psicologia come disciplina, era già una disciplina Della psicologia no, della della psicanalisi sì. psicanalisi, sì, infatti, della psicologia no. E era, si introduce in un contesto in cui già c'era un'idea di psiche. Nell'ambito medico era comunque Cattolico, prevalente ma anche nella basata, psicofilosofica, in nell'ambito realtà una filosofico, sì, psicologia non c'era filosofica fatta da dei stata una... cristiani. Sì. Cattolico, L'elemento di differenza che introduce Freud rispetto alle discipline, quelle del suo tempo, era quello, il concetto di inconscio. Cioè introduce un'idea non di un soggetto, non di un soggetto unico e non scisso, ma di un qualche cosa che era al di là della parte conscia, della parte cosciente, della parte della psiche che poteva essere analizzata in maniera diretta, almeno così si pensava prima di Freud. Inizia con interessandosi agli studi sulla isteria femminile. E in quegli studi si rifà praticamente gli studi di un tipo che si chiama Charcot, Charcot, che era il perché non lo medico della riesco a Salpêtrière dire. di Parigi e che Charcot. era diventato verso la sua metà dell'Ottocento il centro europeo di studi sull'isteria femminile. Era interessato soprattutto in particolare a un caso, quello della mitica Anna Oh, che era una donna, aveva diverse problematiche, tra cui anche quella sessuale, di avere rapporti sessuali, a cui era stata attribuita la patologia dell'isteria, che in realtà adesso poi è comunque stata molto rivalutata, quasi è stata annullata come tipo Non esiste non più, esiste è più una come tipo patologia di medica, patologia medica. una condizione E psicologica. Charcot? L'isterismo, Charcot. Arrivò attraverso il dialogo con la paziente alla conclusione che ci fossero state delle elementi nella vita della paziente che lei non ricordava coscientemente. Quello che Charcot aveva chiamato un rimorso, cioè qualche cosa che era accaduto ma che Anna Oh aveva quasi completamente dimenticato e solo attraverso una serie di dialoghi, di rapporti con la paziente, era stato possibile farli riemergere. E Freud si avvicina a questo tipo di studi che c'erano stati e inizia a teorizzare le modalità per far riemergere il rimorso, quindi inizia con delle teorie sulle associazioni libere. Cioè, un tipo di azione per cui comunque attraverso il tuo paziente, attraverso questa pratica delle associazioni libere, cerchi di far emergere tutto quello che magari, tutta una serie di processi che sono avvenuti e che tu hai eliminato per quei meccanismi che poi lui analizzerà poi in seguito, arriverà poi ad analizzare in seguito. Per ottenere questo tipo di cura, diciamo, del paziente, quindi è necessario che il paziente avvii un processo di transfert, cioè si affidi, secondo questa era secondo l'idea di Freud, si affidi al proprio medico, quasi come nello stesso modo, almeno Freud diceva, in cui il bambino si affida ai propri genitori nella fase di crescita. Ed è non in tutto, ma solo nella parte della formazione dell'io. Ora vi dico perché individua questa cosa della parte della formazione dell'io, del io, del soggetto, vabbè, io, non siamo io, perché... Ma pagina, no, la teoria della scena primaria e della soluzione primitiva della vince, no? Perché all'inizio Freud sbaglia, formula una ipotesi che più tardi abbandonerà con alcuni dei casi di Charcot, e cioè comincia a teorizzare nella prima fase che tutti questi problemi di cosiddetta isteria per le donne, eccetera, derivino da una effettiva esperienza, da una violenza sessuale. Di sì. Reale o anche soltanto minacciata, cioè nel senso che prima dice reale, inizialmente lui dice perché le donne che hanno soffrono di isteria sono tutte donne che hanno subito una violenza una violenza. Ma sbaglio, o era l'isteria era legata solo alle donne? Isteria significa utero, l'utero, e quindi è una malattia psichica che era stata ipotizzata solo per le donne. Era solo per le donne. In realtà adesso si è scoperto che era comunque un pregiudizio culturale e sociale del tempo, ma sì, che non esisteva praticamente, che è quella che poi vi dirò anche le teorizzazioni di Freud sulla questione della frigidità, della donna criollea, queste teorizzazioni di questo tipo. Lui diceva all'inizio che fosse era convinto che queste donne avessero subito delle violenze sessuali e che lui è quello che lui chiama la secondo momento si era accorto che e si era accorto non era sempre vero, e allora introduce un concetto di immaginario, cioè che queste donne nella fase di formazione dell'io, che poi avviene attraverso, immaginavano di aver subito una violenza o di poterla subire o di volerla a volte, insomma una serie di cose così, insomma, no? Quindi è molto complessa il modo in cui Freud forma poi le sue teorie. Passa, l'altra cosa importante, approfittiamo che lei è d'accordo, è comunque che Charcot aveva già cominciato a superare l'ipotesi fondamentale della psicologia dell'Ottocento, cioè che la gran parte dei fenomeni psichici avesse origine organica, cioè fosse dovuta a delle modificazioni fisiche. No? Charcot in maniera... diciamo ancora diciamo timida, però in maniera più diciamo definitiva invece diciamo rifiuta un'idea organica, un'ipotesi organicista sulla malattia mentale, e dice no, le malattie mentali o gli stati alterati della psiche hanno una origine specifica, sono fatti psichici e non fatti psichici. Ok, sì, allora, quindi dopo questa prima analisi che lui riteneva, cioè dopo all'inizio pensava che fossero cose reali, poi dopo un po' si accorge che, cioè dall'analisi dello studio, continuando il suo studio, si accorge che non sono necessariamente cose accadute realmente, sempre secondo la sua ipotesi, ma sono cose che accadono in un determinato periodo di formazione dell'io, in quello che lui chiama poi, che chiamerà poi l'io. E si concentra prevalentemente sulla questione della formazione della... No, aspetta, prima passa attraverso la fase quella dell'analisi dell'interpretazione dei sogni. Perché la sua prima grande ricerca, in cui lui individua nella costruzione onirica la presenza di elementi che facevano parte di quello che lui definiva il rimosso, e individua delle grandi delle modalità attraverso cui questo rimosso viene a galla, o attraverso lui chiama la condensazione, cioè condensazione, spostamento e queste sono tutte robe cadute, rappresentazione, sì, sì. Cioè tutto quel libro lì è un libro da buttare via perché è terribilmente meccanicistico. Sì, vabbè, perché ci sono delle figure, già la scala significa sta cosa, che sono le robe esattamente che c'erano, sono quasi quelle della smorfia, diciamo, messe un po' meglio, ma è la stessa cosa, non è cambiato. Vabbè, comunque, la sua analisi forse più importante è quella che rimane poi dopo, e anche quella che rimane dopo, è quella della formazione dell'io, del bambino, nella fase del bambino. Allora, lui inizialmente incomincia a ipotizzare che ci siano tutta una parte pulsionale, libidica, che subisce una serie di trasformazioni, di passaggi. Secondo Freud, il bambino concentra tutte le proprie desideri, le proprie, inizialmente nella parte della bocca e delle labbra. Sì, nella fase orale, quella che lui definisce la fase orale. Poi, col passare del tempo, lo spostamento della fase libidica si sposta verso la zona dei muscoli dell'ano. Alla e quindi della fase, della fase anale, per poi spostarsi definitivamente nella formazione del mio verso il fallo, verso i genitali, nella sfera sessuale. Allora, questo passaggio della concentrazione della libido del soggetto, poi arrivano a un punto in cui il soggetto deve dare anche un significato, incomincia un processo di significazione della libido. Questo processo di tutto questo aspetto pulsionale, in realtà lui non parla di significazione ancora, perché no. La significazione ne parlerà questa dopo la Lacan. Lui dice, si deve formare un soggetto, cioè questa cosa qui che lui definisce questo passaggio della libido è pre-conscia, cioè è pre-pulsionale, il conscio ancora non si è formato, no? E la formazione del conscio avviene attraverso un processo con i genitori che lui poi diciamo, rappresenta maggiormente con il mito di Edipo, cioè la relazione che Edipo ha con la madre e l'uccisione del padre. Cioè una sorta di passaggio simbolico, lo dico io adesso simbolico perché lo chiamerà anche Lacan simbolico, cioè di passaggio attraverso il quale il soggetto maschio si costruisce il proprio io attraverso la relazione con i propri genitori. E quindi, però, che cosa avviene quando si costruisce un io? Attraverso questo meccanismo voi lo sapete, il mito di Edipo, no? Il fatto che Edipo si innamora della madre, non sa che ne sia la madre e sbagliando uccide il padre, poi prima uccide il padre, poi si innamora la madre che lo fa uccidere il padre. Per sbaglio lui incontra un viandante sulla corda, dice dammi il passo, no, lo fanculo. Più volte lui ammazza questo. Sì. Poi arriva la sfinge, lui risolve l'enigma della sfinge e quindi libera Tebe dalla cosa. Sì. Arriva a Tebe, scopre che il re di Tebe è appena morto, ammazzato da uno sconosciuto che è tagliato su di un sedere che nessuno ha mai visto, e quindi nessuno sa che è lui. Lui scopre in quel momento, ci mette un po' di cazzo, forse era il re di Tebe. Lui non sa di essere il figlio del re di Tebe, è esposto sul monte, quindi arriva lì la moglie, la regina è vedova, lui è quello che ha salvato Tebe dallo re della sfinge, quindi lo fanno re e si sposa questa signora un po' più vecchia di lui. Che lui non è. Quando a un certo punto della serie di cose scopre che Laio era suo padre, Giocasta è sua madre, e quindi si acceca, questo è importante per Freud, si acceca, perché uno dice ma perché si deve accecare? No, si acceca e se ne va via, dopodiché i suoi figli litigano, i suoi due figli maschi, Teocle e Polinizio, fanno la guerra e Teocle viene cacciato via. Comunque il complesso edipico, diciamo, che comunque non è un granché interessante per le teorie successive, sì. È stata quella più criticata, ma anche quella poi più criticata dopo. Comunque non è che in realtà poi è servita, al di là del complesso di tipo, è servita a Lacan per introdurre uno stesso tipo di procedimento chiamato il procedimento dello specchio, che Lacan, il procedimento dello specchio, che più o meno è praticamente più o meno identico. E però che cosa avviene quando il bambino si lega alla madre e uccide il padre simbolicamente, naturalmente non è che lo deve uccidere fisicamente, per questo è scontato, ma avviene che si struttura la sua posizione all'interno del sociale, e questa strutturazione è quello che lui, cioè tutta una serie di norme, di normatività, di relazioni con la società, con il vissuto intorno a lui, sono quelle che Freud chiama superio. Cioè tutto l'insieme dei doveri che sono legati al soggetto, che servono di regolazione di quella che invece è la parte più pulsionale, che Freud chiama esso. In mezzo a queste due componenti c'è l'io, il soggetto, la formazione del soggetto. Cioè da una parte c'è il lato funzionale che regola, diciamo, la crescita del soggetto, dell'individuo. Questo lato funzionale ha delle emozioni quando il bambino cresce fino ad arrivare alla zona fallica. Quando arriva alla zona fallica però si deve comunque strutturare e rapportare, diciamo, all'ambiente circostante, e questo avviene attraverso la relazione con i genitori. E attraverso questa relazione si forma l'io, il soggetto, in contrapposizione, cioè con il superio, cioè con una serie di istanze, di doveri, di cose che sono il soggetto. Ora, la donna dove sta in tutto questo? Ecco, questa era poi. No, il secondo Freud, la costruzione dell'io della donna avveniva con la separazione della madre e l'identificazione del padre. Cioè un amore della donna nei confronti del soggetto di Elettra. Il compresso è quello che viene dal compresso, è separazione dalla figura della madre per identificazione, amore, transfert nei confronti del padre. Però era una semplice ripresa della roba di Edipo applicata pari pari in maniera simmetrica alla donna, cioè sì, la sua vera. Ma in realtà in entrambe le cose è la figura del padre centrale, perché nel complesso di Edipo è lo scontro del bambino maschio con il padre che porta alla significazione, per cui non è l'avvicinamento o l'amore del bambino nei confronti della madre, ma è l'uccisione del padre. Mentre nella variante femminile è sempre il legame della donna con il padre che struttura l'io, quindi c'è una figura dominante di significazione da parte della figura maschile, mentre quella femminile è solamente di contorno, cioè è secondaria rispetto in questo processo di formazione dell'io. È chiaro finora? Sì. Okay. Diciamo, allora, la cosa più importante per Freud probabilmente è questa, sì, questo è il Freud tardo, che già è difficile questo, prima di quello. No, la cosa importante su cui va messo l'accento, quindi, è che il contributo più importante di Freud è questa, diciamo, distinzione in tre gradi o in tre grandi costellazioni. In realtà lui parla di una drammaturgia interna all'io che viene creata attraverso la relazione tra S e superio. Allora, S è il termine tedesco. S perché è la parte funzionale. A volte quello tedesco, a volte invece quello latino che è it, quindi c'è. Ido, sì, infatti è S. Ido, S, è la stessa cosa. Allora, c'è la parte, allora, questa parte non affiora mai direttamente alla coscienza, quindi l'io non è in grado di trattarla in maniera, diciamo, diretta, la può trattare solo con un, come dire, processo individuale e insieme sociale di repressione. L'ess per, diciamo, la civiltà per Freud consiste nella repressione della parte pulsionale, nella sua regolazione in gran parte della repressione. Poi c'è la parte cosciente, che però è una parte molto piccola, diciamo, dell'io, e non si può identificare l'io con tutta la psiche umana. E poi c'è questa proiezione che l'io fa di cose più, di questo insieme di doveri, di mite, che è il superio. Il contributo più importante di Freud è stato scritto non da lui ma da altri cosi, è stato di, diciamo, rivelare che l'io non è più padrone a casa sua, no, perché in effetti per tutta la vita degli esseri umani c'è un continuo conflitto tra la parte pulsionale e quella inconscia, eccetera, che è quella, e tra poi conscio e conscio. E poi su questo si applicherà la carne. Conscio, no? Conscio, sì. Mentre tutta la parte mentre qui è anche importante che comunque Freud, quando inizia a lavorare sulla psicologia, inizia a un approccio completamente diverso, cioè a un approccio tutto basato sulla discussione con il paziente. Proprio lui diceva, non c'era questa cosa della psichiatria fino a quel tempo, no, psicologia, fino a quel tempo si era basato su questioni fisiche, biologiche. Mentre Freud introduce la questione dell'inconscio, della scissione dell'io in diverse componenti, per cui comunque non sono gestibili in maniera conscia. E poi introduce anche la questione che attraverso il linguaggio, attraverso la parola, attraverso il parlare, è possibile fare emergere quello che è il rimosso oppure analizzare l'inconscio. Allora, perché questo? Perché lui dice che l'inconscio, la psiche umana in realtà funziona come un linguaggio, funziona come una lingua. Non c'è mai scritto questo. No, non lo dice mai. No, però no, è Lacan, cioè, questa è la tesi centrale di Lacan. Freud non ha mai scritto per l'inconscio, ha scritto che eccetera, ma non ha mai scritto lui, e infatti i freudiani non lacaniani contestano Lacan proprio su questa tesi, che l'inconscio, tra cui Caronia, contestano Lacan sulla tesi che l'inconscio sia un linguaggio. Ma in realtà, no, in realtà non è che l'inconscio è un linguaggio, è analizzabile, è strutturalmente analizzabile come un linguaggio. Cioè, c'è una sfumatura che non è che sia una forma linguistica, ma ha una struttura simile a quella del linguaggio e quindi è analizzabile anche attraverso il linguaggio. Questa era la cosa. Nella fase più tarda, poi Freud incomincia ad analizzare dei rapporti sociali, a quello che si chiama la sua fase metapsicologica. Sì, è uno dei libri, sì, no, la fase metapsicologica è comunque quella riguardante la sistematizzazione della psicoanalisi, quella riguardante l'io, il superio. Quella è la sua psicologia, dopodiché lui si dedica, allora scrive robe tipo Il viaggio della civiltà, Totem, Tabù, Mosè e la religione monoteista, eccetera, in cui tenta una applicazione alla storia e alla società dei concetti che ha creato per l'analisi della psiche individuale. Sono le opere più discutibili di Freud. Il concetto di nevrosi della civiltà è interessante, perché nella sua analisi che fa nella studio della società, Freud introduce del disagio della civiltà. Lui analizza il concetto di nevrosi non in relazione al singolo individuo, ma come un emergere di una problematica all'interno di un patto sociale, quello che Rousseau avrebbe chiamato patto sociale. Cioè il superio, a parte la bella cosa del tipo, prevede anche che ci siano tutta una serie di regole, di regolamentazione del vivere, che non sono, che sono dovute dalla società, che sono dovute al proprio rapporto all'interno del sociale, al vivere con gli altri. E accettare quelle regole comporta anche un privarsi di alcune cose che magari la libido, comunque la parte pulsionale di se stessi, vorrebbe portare avanti, come pedofilia, cose, e quindi una serie di autorepressioni che il soggetto si fa perché è all'interno di un contesto. E quando questa autoregolazione inizia ad entrare a incrinarsi, si avviano quelle che sono le, cioè, no, lui chiama queste nevrosi, cioè, le nevrosi di una civiltà sono quelle auto castrazioni che il soggetto si fa per essere in relazione agli altri soggetti nella propria società. Ma quando queste cose incominciano a incrinarsi, si avviano quelle che vengono chiamate le psicopatologie all'interno del sociale, e psicopatologia della civiltà, cioè per cui, per esempio, anche Vivo è molto interessato alla questione delle psicopatologie della società, delle nuove generazioni, delle cose, cioè quando si rompono quei meccanismi di nevrosi che regolano il rapporto del soggetto con gli altri, cioè attraverso sempre il superio, cioè una serie di imposizioni sociali che il soggetto si autoimpone. Questa era una delle cose interessanti, anche perché poi viene ripresa poi dopo sulla questione delle nevrosi delle civiltà, delle società contemporanee. Detta in maniera semplice, è un po' semplificatrice, la nevrosi è uno stadio leggero di attrito tra le esigenze, diciamo, libidiche e le relazioni sociali o le convenzioni, diciamo, sociali. In qualche modo Freud è arrivato a teorizzare la nevrosi come stato, diciamo, normale dell'uomo all'interno di una, diciamo, civiltà. Quando però nei casi particolari in cui questo equilibrio non si regge più e o direttamente le pulsioni libidiche o la loro rappresentazione all'interno dell'io, tendono a squilibrarsi, allora si ha la fase successiva che si chiama psicopatologia. Quindi la psicopatologia o psicosi non sarebbe altro nella nella teoria di Freud, che è una sorta di nevrosi potenziata arrivata a un punto tale, avrebbe detto Marx, in cui la quantità si trasforma in qualità e quindi cambiano le mie ragioni. Allora, questa che poi è anche quella che analizzano Deleuze e Foucault quando parlano di schizofrenia. Sì, però, di... però Foucault riprendo Deleuze e Guattari dandogliene un'accezione più positiva, cioè dicendo bene la schizofrenia o la nevrosi da questo punto di vista non è altro che uno dei modi per combattere le imposizioni del sistema della società borghese, il rivoluzionario è sempre un po' schizofrenico, insomma, dicono Deleuze e Guattari, questo molto chiaro. Freud non sarà stato parlato di Freud, era un vecchio signore conservatore che ha rivoluzionato tante cose, ma insomma poi però c'era questa idea. Ma dei problemi con le donne, molti problemi. E probabilmente anche con i genitori, perché sennò non si spiegherebbe tante cose. Comunque, allora, Freud, Freud lasciamolo perdere. Comunque. Subito, cioè, uno dei ha avuto diversi studiosi Freud dopo di lui, cioè continuatori del suo lavoro. E Melanie Klein, che è... Diciamo prima i due più importanti. Sì, è importante che Melanie Klein. Che sono? Melanie Klein è stata non l'ho mai apertamente contestato, mentre Adler e Jung, sì, quindi... Vabbè, Adler e Jung sono gli altri... Adler e Jung hanno cominciato come discepoli di Freud, tutti e due. Però si sono distaccati. Ci interessano relativamente quelli. Ci interessa il pilone del freudismo. Vabbè, quello è quello che dico. Melanie Klein è molto importante. Melanie Klein è una delle studiose di... Soprattutto perché fece le scarpe alla figlia di Freud, cioè Adana Freud. Viene presa da, viene presa come riferimento da alcune femministe americane. Sì. Klein. E anche da Deleuze, come riferimento in realtà in maniera negativa da Deleuze. Mentre più importante, diciamo, è comunque quello che ha avuto più successo a livello, diciamo, teorico, è stato sicuramente Jacques Lacan. Lacan però era un folle, secondo me è un soggetto veramente totalmente folle. C'è, alcuni raccontano che, cioè tipo alcune cose che ho visto sulle rete raccontano tipo che durante il 68 chiesero gli studenti chiedevano il professore venga a fare la rivoluzione, lui rispondeva io sono la rivoluzione. Cioè era un personaggio molto megalomane. Cioè, tutti i riti che facevano, questo seminario, la gente. Praticamente lui faceva ogni mercoledì un seminario e i libri che rimangono prevalentemente di lui sono questi seminari incomprensibili per la maggior parte delle persone. Cioè veramente sono difficilissimi da leggere e la maggior parte delle volte si leggono cose che hanno scritto gli altri su di lui. E cioè una conoscenza di prima mano di Lacan prevede veramente uno studio. Poi c'è una raccolta di scritti in due volumi. Le uniche due opere di Lacan sono queste, seminari sono 15 libri, 15 o trascrizioni di cose che ha detto o appunti suoi su un tema, sono 15 volumi. E poi invece due volumi di écrit, cioè di scritti, che... E Lacan si può considerare a pieno titolo uno strutturalista, forse uno dei grandi strutturalisti del pensiero strutturalista. No, che cosa? L'altra volta abbiamo provato a spiegare che cos'è lo strutturalismo, che non ci riuscivamo sulla questione topologica e tutta questa cosa della struttura. Ve lo ricordate un po' Saussure? Praticamente... E quando si intende strutturalismo, cerco di spiegarlo in un modo diverso. In molte teorie, no? Si cerca di trovare tipo una causa, cioè tipo causa-effetto, no? Tipo questa è la causa di questo, questa è la causa di questo, questa è la causa di questo, a catena. Cioè come se poi man mano che tu elabori la teoria poi arrivi fino a un punto di origine di tutte le cause, no? Allora, questo tipo di... idea, questo tipo di struttura dei pensieri o delle teorie, si è cercato di superarlo, non si è mai riuscito pienamente a superarlo. E lo strutturalismo voleva essere un superamento di quel tipo di relazione quasi continua, cioè quasi deterministica, da un punto che poi si arriva a tutto quanto alla spiegazione del resto, no? Si cercava un'altra modalità. E questa modalità loro la definivano sulla base di una struttura. Cioè, per loro non esistevano degli elementi che stavano più in alto dell'altro, cioè ci sono tutta una serie di oggetti e di cose, di pensieri, di concetti. No? Questa serie di concetti non è che ce n'è uno che determina tutti gli altri in una sequenza di gerarchie, ma un concetto è in relazione ad un altro. E il valore di un concetto rispetto all'altro si determina sulla dove sono, sulla posizione. Cioè, per questo dicevo topologico, cioè in posizione. I concetti sono in relazione ad altri concetti e assumono un valore nella teoria a seconda della relazione con gli altri concetti. Quindi il valore cambia? Può cambiare. Può domanda, cambiare sempre. Domanda, ma questa struttura di un questa struttura linguistico o di un sociale è qualcosa di visibile, no, o è qualcosa di, diciamo, nascosto che bisogna scoprire e fare fiorare? No, non è possibile nemmeno determinarla, la struttura in realtà totalmente. Ma lo strutturalista, cioè quando si cerca lo strutturalista, questa struttura, ad esempio nel linguaggio. La struttura del linguaggio è data immediatamente o è qualcosa che sta sotto, o è nascosta rispetto alla produzione linguistica normale? È nascosta, è nascosta. Un'altra serie di lo strutturalismo è che la struttura non è mai visibile, è una sorta di livello più profondo, quella che in linguistica Scholz chiamerà la struttura profonda, la deep structure, la struttura profonda, che non, questo vale nello studio delle società umane, del linguaggio, della psiche. Anche Freud è un pre-strutturalismo, anche Freud ci dice che tutto quello che noi vediamo apparentemente fuori di noi, in realtà, deriva da da qualche cosa che non è accessibile direttamente alla coscienza, no? Quindi non è che, mentre lo studio, il pensiero della causa e dell'effetto, che è il pensiero, diciamo, di quel modo di pensare che potremmo definire storicismo. Lo storicismo dice tutto ha una storia, la storia va avanti per cause, cioè la situazione economica del paese, perché a un certo punto in Francia nel 1789 succede la rivoluzione, poi cambiano un po' le cause, per uno che si chiama Napoleone Bonaparte, Napoleone è l'effetto di altre cause e bla bla bla. Non c'è nessuna struttura in questo modo di pensare, o diciamo, perlomeno la struttura che c'è è quella che io vedo, divisione in classi della società, va bene, oppure poveri, ricchi, cioè cose normali. Lo strutturalista invece tenderà a dire, no guarda che dietro, uno dei più grandi lavori strutturalisti, che è il libro sulle strutture della parentela di Levi-Strauss, spiega quale sarebbe uno schema possibile dietro a tutti, secondo Levi-Strauss, a tutte le possibili fenomenologie di modi di sposarsi dei vari popoli e delle varie civiltà. Lui nei primi 20 anni della sua cosa ha cercato di costruire una specie di struttura basilare che starebbe al di sotto di tutti i sistemi di parentela, diciamo, conosciuti. Adesso noi nella nostra come dire, civiltà non ce n'è più su due, ma nelle civiltà cosiddette primitive ci sono sistemi di prescrizione, tu devi sposare una che sta in quel certo clan, cioè, robe complicatissime che poi vengono meno quando si sviluppa la società da altri punti di vista. Allora, Levi-Strauss fa un lavoro e dice dietro a tutto questo c'è una struttura e la scrive, riesce a... allora, la critica che voi potete fare al strutturalismo è che spesso crea delle, come dire, crea queste cosiddette strutture che sono troppo complicate o troppo astratte o troppo, diciamo, generali. Quali sono stati i pensieri strutturalisti che hanno avuto un maggiore successo? Quelli che fanno vedere le cose più semplici. Cioè, perché Saussure ha avuto così tanto successo? Perché dice, significato e significato, arbitrarietà, linearità, composizionalità del significante, basta, è praticamente la regola. Lo strutturalismo di Levi-Strauss ha avuto molta influenza sulla psicologia, però è stato meno popolare che non la linguistica di Saussure, perché è una roba troppo, diciamo, complicata. L'ultima cosa da dire è che lo strutturalismo di per sé ha sempre, o o quasi sempre o preferenzialmente porta a un modo di pensare universalista. Tu dici che c'è una, come dire, struttura. Freud è un universalista, tutte le cose di Freud sono, in questo senso, sono prestrutturaliste, perché implicano che la psiche umana abbia una unica struttura, un unico modo di funzionamento, a prescindere dal fatto che tu nasci in Occidente, in Oriente, eccetera. Poi certamente puoi dire, Freud non è che avrebbe detto che la psiche dei cinesi è totalmente uguale alla nostra, però avrebbe detto, ma al fondo sono uguali. E poi certamente la storia, le modalità concrete in cui si sono sviluppate fanno sì che questa struttura dia luogo, questa struttura profonda dia luogo a strutture superficiali un pochino diverse, ma la struttura profonda è, come dire, sempre quella. Cioè per gli strutturalisti la struttura è piena? La struttura è? Cioè non è una vuota, nel senso sono una griglia? No, prevede anche, adesso vedrete quando Loretta vi spiegherà Lacan il ruolo del vuoto nel pensiero lacaniano. Tutta la struttura lacaniana è costruita intorno ad un vuoto, ad uno spazio, ad una zona di questa struttura vuota, quindi ci può anche essere il vuoto. Ma perché la cosa, l'altro paradigma, l'altro assioma, l'altra modalità generale del pensiero strutturalista è che è inutile chiedersi l'origine o la causa storica o di una certa struttura. Non è questo che interessa l'analisi strutturalista. Una struttura in senso strutturalista non è altro che un insieme di differenze determinate. Anche in questo caso è, diciamo, Saussure il paradigma di cosa. Saussure dice non c'entra nulla la lingua non è un popolo. Guarda che ce la fa. Allora dice cosa Saussure dice: la lingua non è un insieme di cose di per sé significanti. La lingua costruisce significato utilizzando semplicemente un insieme di differenze, di opposizioni distintive. La fonologia, cioè la scienza della fonetica, la parte della linguistica che spiega la struttura dei fonemi, non la loro descrizione, la fonetica descrive i vari fonemi. La fonologia deve riuscire, anche qui l'ipotesi universalista, a dare conto di tutte le fonetiche, di tutte le lingue, come dire, possibili, interni di una serie il più possibile limitata e semplice di leggi che non sono nient'altro che liste di opposizioni distintive. Questo si oppone a quello all'altro. Quando Lévi-Strauss fece il suo lavoro sulle strutture della parentela, cercò esattamente di prendere questo schema di Saussure e dire, quindi non ne poteva un cazzo di dire, ma quello deve sposare la cognata in secondo ordine del suo amico dell'altro clan, perché questo significa, non significa un cazzo, non se ne frega niente di cosa significa. Noi spieghiamo tutto questo dicendo che questo si oppone a quello, l'altro all'altro, quindi c'è un sistemino di tessere, no? Questa è la cosa. Ora questo è portato alle conseguenze estreme. Può essere pure molto molto vincolante, ma è terribilmente universalistico, cioè dice cazzo, le robe vanno sempre così perché la struttura è uguale dappertutto, in tutti i tempi, dalla storia. Ma poi il difetto che aveva di fondo era che comunque una volta stabilita la struttura, tutta questa struttura, non c'era più possibilità di nuove significazioni, di nuovi valori, di nuove cose. E quindi era importante la presenza del vuoto. Di un elemento, quello che dice, di un elemento che è sempre nel posto sbagliato in cui. Non è mai nel posto in cui ti aspetti. Ma perché la struttura era vuota? No, perché la struttura non è vuota. Cioè vuota nel senso. Perché la struttura, è anche in realtà la struttura. Non è una cosa che preesiste, perché se tu dici la struttura vuota, tu pensi che sia una cosa che preesiste. Invece la struttura si determina nella presenza degli oggetti che sono in relazione tra di loro. Sì, però si crea. No, però non è che si crea, cioè in realtà. Cioè non è che si crea. come posso dire? Cioè nel senso che ci sono degli elementi che... Se c'è un problema di controllo? Sì, quello che dice, si dice, se prendo Deleuze siamo alla fine, no? No, sto parlando di Deleuze, ma sto parlando il libro di Deleuze sullo sinistranismo, perché là c'è scritto perché non è vuota. Cioè in realtà la struttura, se tu dici c'è una struttura che preesiste, se tu dici che una struttura vuota, se tu dici che una struttura è vuota, cioè la struttura non esiste se non ci sono gli oggetti all'interno che sono in relazione tra di loro. Ah, il problema non è mai vuota, è sempre che si può riempiare, è sempre piena, no, ci sono proprio degli elementi. Allora, le cose stanno diversamente, tu. La struttura non è un sistema, cioè non è quello che ti spiega le cose. No, questo ho già detto. Cioè non è un principio, non ti spiega le cause, non ti spiega le cause. Però implicito ha un principio fondativo. Pigliamo, cioè non è uno schema di funzionamento. Pigliamo lo strutturalismo linguistico. Tu hai il primo approccio sono le lingue, no? Tu studi le lingue. Allora, ci sono le lingue europee, le lingue semitiche, le lingue orientali, le metti in famiglie, dice, alcune sono più affini di altre, dopodiché hai una fenomenologia, se tu studi, questo non è studiare la struttura, cioè la struttura dell'italiano non è la grammatica italiana, la struttura dell'inglese non è la grammatica, la struttura in senso strutturalista è, se esiste, quell'insieme di regole e di opposizioni distintive che stanno sotto all'italiano, all'inglese, al cinese, al russo. Cioè, opposizioni distintive si intende tipo la relazione tra le due cose, per cui le due cose assumono un significato dalla relazione. E dalla differenza. E dalla differenza tra quando tu dici in italiano, dalla italiano la parola cane, tu non sei cosciente, ma la tua mente dice cane, sai cosa vuol dire cane? Perché cane è opposto a pane, è opposto a rane, è opposto a tutte le possibili parole che finiscono con i sintagmi ane e hanno come prima consonante delle cose diverse. Quindi tu hai un sistema di opposizioni. Cane è opposto a pane, è opposto a rane, è opposto a fu, è opposto a sarà, è opposto a sarebbe, anche nei tempi di un verbo, no? Tu, il valore di è non è un valore, diciamo, assoluto, è un valore relativo. È quello che è, perché non è fu, non è stato, non è sarà, non è sarebbe, non è essere, non è, hai capito? Quindi dentro i tempi finiti di un verbo, un tempo si definisce in relazione, in opposizione distintiva con gli altri tempi. A livello fonetico, il suono k si definisce come opposizione a tutti gli altri possibili fonemi di tipo consonanti, eccetera, eccetera. Quindi questo è. Allora, perché dico che dietro c'è le cose? Perché se tu dici, vabbè, ma la struttura è ciò che accomuna tutte queste cose, in ultima analisi la struttura che tu non lo voglia o no, ha un valore significativo. Ho capito, ma assume un valore fondativo. Sì, che ne dica loro. No, in realtà assume un valore fondativo quando, più che fondativo, la struttura a un certo punto, se tu la incominci a analizzare tutta, Lacan o comunque anche Saussure erano delle persone ossessive. Certo. Compulsive e ossessive. Erano soggetti che volevano trovare. No, veramente, cioè Saussure era un soggetto che voleva trovare. Tutto un sistema, tu significa, questo significa questo perché la relazione è questa, perché la relazione è quest'altro, perché la relazione è quest'altro, perché se tu incominci a fare questo tipo di lavoro potresti anche arrivare al pensiero che tutto quanto è mappabile, non che è spiegabile, così, però mappabile, cioè si può creare una mappatura di tutti quanti le cose, e per cui poi tu riesci a muoverti in questa mappatura. Allora, alcuni di questi strutturalisti, anche per mediare a questo tipo di cosa, o anche per prendere questo tipo di discorso, non a fine, perché nel momento in cui tu hai mappato tutto, è come crei un'immobilità totale, cioè tutto questo sta qua, questo sta qua, questo sta qua, allora, questo, no. Dai un posto un po' a tutto quanto. Questo lo dice Borges nel modo migliore possibile in un racconto in cui appunto parla dei geografi dell'impero, che volevano costruire mappe sempre più precise. Alla fine costruirono una mappa che era grande tanto quanto il territorio, perché era quella migliore possibile. E solamente questa mappa è andata presto disrovinata, perché ormai rimangono solo alcuni brandelli di questa mappa, ma, sì, ma è questo che l'ossessione dello l'ossessione della mappatura diventa che ad un punto diventa allora che cosa ci sono dei momenti siccome questo qui non è possibile oltretutto comunque estremamente fantasivo universalista c'erano dei momenti in cui questa mappatura non funzionava c'erano delle cose che non ritornavano nella cosa. Allora per diversi autori ognuno di questi autori ha introdotto un elemento di significazione imprevedibile, non imprevedibile, e hanno teorizzato quell'elemento e quell'elemento è diventato fondativo poi di tutto quanto il resto. Cioè hanno individuato un elemento che si inseriva a un certo punto, tipo in questa struttura, ho mappato tutto, a un certo punto c'era un vuoto, c'era una cosa, mi trovavo un elemento, questo elemento di significazione che mi sconvolgeva la mappatura, no? E allora, non riuscendo a capire perché non funzionava, hanno introdotto un elemento che poteva dare la giustificazione di questa non totale possibilità di mappare. E in Lévi-Strauss è il significante fluttuante e in Lacan è l'ordine simbolico del padre. Che poi lui dice è il grande altro, è l'altro. Allora però spieghiamo praticamente la carne come si relaziona alla filosofia di Freud. Avevo detto Freud è un proto strutturalista, cioè perché comunque cerca pure lui di fare una sistematizzazione totale della psicoanalisi, per cui incomincia a studiare tutte quante le teorie, tutti gli esempi, tutte le cose, quindi cerca di dare delle spiegazioni, più che delle spiegazioni anche degli strumenti per arrivare alla conoscenza di determinate cose. E siccome il linguaggio costituisce uno degli elementi fondamentali della psicoanalisi, Lacan prende questo elemento, erede anche dello strutturalismo di Saussure, cioè dello studio della linguistica che era cambiato, prende questo elemento e lo introduce totalmente, in realtà lui era uno psichiatra, uno psicologo, cioè introduce lo strutturalismo della linguistica totalmente nella psicanalisi. Esattamente, completamente. Il Lévi-Strauss con l'antropologia. Cioè, il modello è sempre Saussure. Sì, Saussure è quello che ha determinato gli strutturalismi. Praticamente lo prende e dice, in realtà lui poi introduce altre componenti, pure per lui c'è un processo di formazione dell'io, del soggetto, no? Di formazione del soggetto. E questa lui lo chiama il me, il moi. Aspetta un attimo, che non vorrei confondere tra... Arrivano le... No, e ci serve perché questa è la distinzione tra immaginario e giudice. Ok. Il moi. Ma invece forma prima o dopo il taglio dello scherzo? Allora, aspetta. C'è la fame, il fratellismo, poi... Giornata di merda, ragazzi. Aspettate, mi date un secondo, che devo ricomporre un attimo un pensiero. Sono un quarto. Voi fiocchi, ora potete stare? Aspetta. Ok. Io, sono... Questo è stato il mio ultimo consiglio accademico, ve lo dico. Perché? Sono arrivati due libri per rotato. Basta. Cioè? Sono arrivati due libri per rotato. Dove minta? È stato così brutto con te. Aspetta, perché non riusciamo. Continuo o facciamo un stop? Allora, riprendendo il sistema di Freud, praticamente per Lacan lo struttura in maniera diversa, cioè non è solamente la relazione, cioè la formazione dell'io in relazione tra l'ess e il superio, ma in Lacan individua tre grandi elementi di cui il soggetto è formato e sono l'immaginario, tutte cose pre-cosce, cioè tutta una serie di costruzioni che il soggetto fa prima della parte conscia, che invece la parte conscia è lo stadio simbolico del soggetto, e poi c'è il libidico, c'è lo stato pulsionale, lo stato più basso, quello più legato al corpo e alle pulsioni. Allora, per Lacan il passaggio di formazione del moi, del me, avviene attraverso quello che lui chiama la fase dello specchio. La fase dello specchio è quando il bambino, alcuni fanno proprio l'esempio dello specchio, il bambino posto di fronte ad uno specchio si individua nell'altro, in questo caso per la carne il padre, sempre il padre, un'alterità, un io idealizzato, che gli permette come strumento, è uno strumento, un elemento che gli permette di strutturare, di dare significato a tutto quanto quello che è. Perché che è e il padre, l'ordine simbolico del padre, che riprende comunque la composizione lacaniana e il passaggio freudiana e avviene sempre attraverso sempre il rapporto edipico, sempre il rapporto della relazione di transfert nei confronti della madre, di punto di accetta totalmente lo schema di Freud, però lo struttura in relazione, introducendo questi tre elementi, immaginario, libidico e simbolico, e il passaggio della formazione del me è il rifiuto dell'immaginario, cioè il superamento dell'immaginario, non il rifiuto, il superamento dell'immaginario, cioè quella parte della costruzione di un me che comunque è più vicino al pulsionale, al libidico, cioè il non è il superamento, la comprensione che l'immaginario è una cosa a parte, cioè è non il superamento, la scissione con l'immaginario, cioè la formazione di un simbolico che è scisso dall'immaginario, cioè capire che cosa è reale, cioè che cosa è lo mette da parte o lo comprende? Lo mette da parte comprendendolo come immaginario. Cioè, allora, nella fase, io questa però ho paura di dirlo perché la carne è molto difficile comunque da comprendere. Nella fase di formazione del bambino c'è una fase di pulsione libidica come quella freudiana che abbiamo detto dell'esso. Questa pulsione libidica però assume una... il bambino non è totalmente inconsapevole, dà dei significati, crea delle immaginazioni, crea degli elementi intorno, si crea delle immaginazioni intorno che non sono totalmente corrispondenti al reale, cioè si cerca di capire quello che c'è intorno a sé. Cerca di non usare il termine reale come la cosa. Infatti è reale. Ma è per questo ho difficoltà, perché utilizzo la parola reale, non vorrei fare. L'esistente, il fenomenico. Ciò che appare, ciò che è il materiale dell'esperienza del bambino. L'immaginario è l'insieme dell'esperienza, sì, cioè l'esperienza una sorta di sensazione che ha di quello che ha intorno, elaborata. Perché quando si parla di immaginario, il tuo immaginario, cioè l'insieme di sensazioni, di idee, immagini che ti sei creato all'interno di un contesto, no? E nel momento, nella fase edipica, cioè nella fase in cui si scontra con un elemento fenomenico tangibile, il soggetto capisce che tutto quello che c'era era immaginario e quindi si separa dall'immaginario e incomincia a sistematizzare, cioè nel senso di mettere in ordine le proprie conoscenze, tutti i significati di quello che gli sta intorno sulla base di questo elemento, di questa alterità, domanda, di questo io al di fuori di sé. Domanda, questa... si può dire che c'è una significazione, no, chiedo per capire meglio, si può dire che c'è una significazione nella fase dell'immaginario? No, perché è simbolico. La significazione quindi è simbolica. Allora, per Lacan, questa fase, cioè la fase quella in cui il bambino davanti allo specchio si riconosce vede che c'è un altro uomo, maschio, padre, bianco, e di solito sempre così, cioè, maschio, bianco, europeo, sempre uomo, quello. Uomo, un altro soggetto che ha il suo sesso o che ha lo stesso opposto, nel quale prova o una posizione posizione distintiva, per riuscire a capire se stesso, oppure un'attrazione nel caso di una donna, e la parte dell'immaginario e dell'ibidico è tutta relativa alla madre. Perché? Cioè, la carne dice, nella fase di sviluppo... Sì, la carne. Certo. No, proprio per la donna. Anche per la donna. Per la donna no, ribaltato sempre nella modalità freudiana. Cioè, la carne dice, nella parte di crescita del bambino, il bambino è legato alle pulsioni. E se è legato alle pulsioni, al bere, al mangiare, a fare bisogni e cose varie, è legato comunque fisicamente alla madre. E la relazione con la madre gli crea tutto un immaginario, un significato, che però sono legate comunque alle pulsioni, non sono il significato delle cose fenomeniche, cioè sono una sorta di cosa indefinita. È un regno del fate. Sì, è un qualche cosa che non è totalmente definita. Nel momento in cui il bambino si trova di fronte al soggetto maschio, al padre, sì, allora tutto quello che lui normalmente era immaginario, si capisce che cos'è l'immaginario, si distanzia tutto il simbolico, cioè il padre gli dà tutto il significato, come si dice, il padre dà il nome alle cose, cioè gli dice come si chiamano le cose, no? Io il padre dà il nome alle cose, e allora tutto quello che è libidico, tutte le pulsioni vengono regolate, cioè il padre definisce il superio, l'insieme delle regole, l'insieme delle parole, l'insieme degli elementi, e tutto quello che è libidico è legato al corpo, e libidico e l'immaginario vengono poi regolati dal simbolico, cioè dal dare significato alle cose, chiaro? Questa è la fase dello specchio, cioè il bambino c'è davanti allo specchio e vede la madre, nella madre il bambino nella fase piccola ha una totale identificazione, cioè si sente un'unica cosa con la madre, no? Cioè lui, cioè se tipo immagina il bambino con la madre davanti allo specchio, però poi si accorge che nell'intenzione della madre si accorge di essere una cosa separata dalla madre, che è separata dalla madre, e quindi tutte quelle pulsioni, il libidico e l'immaginario che aveva, comunque le attribuisce alla relazione con la madre, che però costituisce come un soggetto diverso da sé. E poi c'è un altro separato, idealizzato, il padre, che si serve per creare il significato del mondo. Domanda, com'è che lo chiama, qual è l'oggetto che nomina Lacan per indicare il significato supremo? Gloria, si muove il cuore. No, Gloria, pare, c'ha il pallo. Il pallo, il pallo. Fallo, scusa. No, era per sapere. Allora, no, domanda. Ma in Freud c'è il fallo. Sì, però in Lacan ancora meglio. Domanda, perché a questo punto Lacan dice che il fallo è il vuoto? Perché dice che il fallo è il luogo del vuoto? O il fallo è ciò che riempie il vuoto. Allora spieghiamo perché la donna viene concepita come un vuoto, certo. Cioè la parte pulsionaria, no, immaginaria, no, non solo la donna, perché lui dice che l'altro è, perché lui dice che l'altro è vuoto, no, non è l'altro il vuoto, scusate, perché no? Dici che il grande altro cos'è? È il riempimento del vuoto, ma quindi la realtà, cioè questo altro idealizzato è l'ordine simbolico del padre, ed è quello che riempie il vuoto, quando, cioè, che costituisce un elemento che riesce a dare significazione nel vuoto. Cioè domanda, l'ordine simbolico è la realtà o no? No, è un elemento che serve per creare significazione. È quello realtà, che struttura la realtà. Sì. La realtà che è vuoto, che è che è nebbia. Che no, non è vuoto. Sì, sì, sì, la realtà che è l'inconoscibile, questo è Kant. Di questo lui è kantiano, e forse lo era anche Freud, diciamo, diciamo la realtà in quanto tale è altra, inconoscibile, è ciò che si pone totalmente a te. Cioè, l'altro in quel senso. Eh sì, e tu come fai per addomesticare l'altro? Gli devi dare l'ordine simbolico, cioè lo devi chiudere dentro il discorso del fallo. Vabbè, ma la questione dell'ordine simbolico si contrappone alla questione dell'immaginario. Sì, certo. Io sono rimasta certo, al fallo, certo. Il fallo è? L'ordine simbolico del padre è dato dal fallo, cioè che comunque è il fatto del... È il fallo non fisico, è un fallo simbolico. Okay. Però ma in realtà poi comunque pensare a quello fisico. In realtà è questione di quello fisico, perché l'ordine simbolico del padre è pieno e vuoto, cioè voglio dire, mi sembra abbastanza... Sì, sì, no, da un punto di vista è chiaro che è, che no, proprio fisico. Esemplato sulla. Sì, però poi lui dice il fallo, quando lui usa il fallo. Non è che riempie un po'. Allora, perché. Ah sì, e questa è infatti la cosa che poi dà spazio a pensare la differenza. Perché? Perché lui pensa che la realtà ci sia un vuoto, cioè che quindi la parte funzionale, immaginaria comunque abbia un vuoto e ci sia bisogno di riempirlo. E quello che lo riempie è l'ordine simbolico. Cioè, però. Questo è lo schema della formazione della coscienza e del dominio sul mondo secondo la carta. Quindi l'uomo domina il mondo con il simbolico. Sì, con il simbolico. Quindi il mondo non è il reale, il mondo è il reale più o meno. Io mi sono persa l'ultima. Non ho capito l'ultima parte. Fallizzato. Allora, praticamente. Alla parte dell'immaginario e dell'epitico, quella si è capita. Quello parlando adesso, l'ordine simbolico. Allora, quella cosa tipo che nella fase dello specchio, cioè quando il bambino dà significato alle cose, alla parola, così viene chiamato ordine simbolico del padre, e che è il fallo. Ok. Ok, quello sono ancora stato. Quindi c'è dato significato a tutte le cose, concentrandosi sulla figura. Ok. L'altro, il grande altro, l'idealizzato, l'io assolutizzato, no? Ok. Perché è possibile questo meccanismo? Perché non c'è. Cioè, perché il bambino nella fase precedente non ce l'ha, cioè non c'ha nessuna cosa che gli permette la significazione. No? E quindi per questo poi il fallo riempie quel vuoto di significazione, cioè nel senso che il bambino non ha gli strumenti per dare un significato al mondo. No? Ci deve essere un elemento che riempie, che riempie, attraverso il quale iniziare l'insieme delle strutture. Che del come significato. Il fatto che dipende dai genitori. Sì. Quindi detto in altri termini, i processi però, di significazione hanno bisogno di un vuoto, di un elemento che preesista. Però aspetta, bisogna specificare questa cosa. In Freud la cosa del tutto poi dipende dai genitori. No? Ha una cosa come deterministica, cioè tu succede una cosa da bambino e tu da grande. Cioè, in Lacan è più complessa, cioè non è una cosa così deterministica, cioè l'ordine simbolico del padre è quell'elemento che permette il processo tra cui, cioè tu dici, vabbè io non capisco niente, non ho niente davanti, non riesco a capire qualche cosa, c'è un unico elemento che mi permette poi di capire a fianco che cosa c'è a fianco, cioè ci permette di mettere a fuoco, tipo quando tu vedi tutto sfocato ti focalizzi su un punto e poi piano piano incominci a vedere a fianco, no? E riesci a capire l'immagine piano piano, no? Allora quando Lacan dice c'è questo ordine simbolico, ma questo ordine simbolico non è fisso, cambia, cioè si trova ogni volta in una posizione diversa, capito? E permette poi al bambino di costruire parecchie cose. In alcuni, secondo Lacan addirittura è proprio l'elemento di significazione proprio della vita di un soggetto in assoluto. Cioè, quindi è un elemento che c'è sempre, un ordine simbolico che c'è sempre. Poi leggeremo poi tutte le critiche che ci sono state fatte a questa cosa. Ma la cosa poi è anche fondamentale da ricordare in Lacan, la questione del simbolico. Cioè la critica più grande che viene fatta a Lacan, ma che poi viene fatta anche in alcune parti del femminismo, è questa rilevanza fondamentale della lingua, del linguaggio. Cioè che la parte della parola, del dare significato alle cose, cioè il simbolico significa proprio il linguaggio, proprio dare significato alle cose, cioè che significato ha un bicchiere, ma come che significato ha la mia presenza nel mondo. Capito? Quello è detta in parola, cioè proprio detta in linguaggio. Questa centralità del simbolico viene poi è stata poi criticata, come anche la divisione tra libidico e immaginario. Perché cioè, lui comunque fa tutta questa cosa, cioè sono la parte funzionale e la parte immaginaria sono separate dalla parte del simbolico, la parte che però poi mette in ordine tutto quanto, quindi crea poi l'ordine sociale, crea tutta una serie di cose, così come era il superio per Freud, però non con quell'aspetto di normatività, cioè per cui il superio era tu devi fare delle cose così, ma proprio di struttura. In questo strutturalismo. Ed è per questo che alcuni gruppi femministi passano da una critica del fallocentrismo al fallocentrismo, non solo il questo maschile è fallocentrico, ma è anche il fallo-logocentrico o logo-fallocentrico, cioè identifica il fallo con la parola. D'altra parte l'inizio l'inizio del Vangelo di Giovanni è questo, no? In principio era il Verbo, era la parola, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Il Verbo è l'ordine, il Verbo è il significato, il Verbo è la parola, eccetera, eccetera. Adesso fermiamo, perché sennò... è andata fuori. Ok, rispetto al femminismo, ho preso anche questo catalogo perché c'è molta confusione, c'è grossa crisi. No? Allora, non sono così strutturalista. No. In questo, quando siamo andati a Parigi a vedere questa mostra al Pompidou, e dietro questo libro ci sono praticamente una sorta di cronologia che è molto interessante anche da leggere rispetto a tutto quello che le grandi scrittrici come Simone de Beauvoir o tutta la produzione femminile artistica e intellettuale, Virginia Woolf, e anche tutti i movimenti legati al femminismo e i processi di liberazione quasi. Soltanto che questo tipo di cronologia è molto legata a un'impostazione di tipo dei diritti, cioè dei diritti acquisiti dalle donne nel tempo. Certo, io sono rimasta sconvolta che nel 1910 non avevano il diritto di ricevere la posta, però cioè, una cosa che io, cioè, veramente... Da panico. Sì, non avevamo il diritto di ricevere la posta personale. Cosa che a me sembra veramente fuori dal mondo. Il marito guardava la posta, se era buono gliela dava, se no poteva aprirla, leggere e prendere sulla letta. Non poteva neanche essersi informato. Perché... Allora, quindi c'è, diciamo che i movimenti di emancipazione, infatti sono un'istituzione fondamentale nel senso di questa distinzione, i movimenti di emancipazione femminile, cioè i movimenti che cercavano di far acquisire alle donne dei diritti basilari, come quello di ricevere la posta o di andare a votare, sono movimenti che esistono da parecchio tempo, per esempio quello delle suffragette, cioè in Inghilterra erano, se voi, non so se avete mai visto Mary Poppins, no? C'è la moglie che va lì, che fa tutto il canto di lei che vuole il diritto di voto, poi però comunque sta a casa a lavare i piatti e a parlare i bambini. Però comunque per lei è importante il fatto di riavere il diritto di voto. Allora, quello è stato tutto un movimento che nel corso del tempo ha cercato, fondamentale, secondo me non è totalmente da eliminare come movimento, che comunque ha cercato di arrivare a delle cose basilari per le donne. Dalla psicanalisi, vabbè, naturalmente questo tipo di movimento poi ha permesso anche alle donne ad accedere all'istruzione, a tutta una forma di istruzione che magari prima non c'era, assolutamente non c'era. E proprio nel periodo degli anni 60, forse, no, metà, no, diciamo, no, aspetta, dice, intorno agli anni 20 iniziano ad accedere all'università. Sì, sì, certo. E alle, diciamo, sì, vabbè, considera la Beauvoir, la liberazione della donna è contrapposta a quelli di emancipazione, cominciano negli anni 60, sì. Gli anni 50 e gli anni 60. E, vabbè, la Simone de Beauvoir praticamente già prima, Virginia Woolf già, per esempio, scrive in un testo: ogni donna dovrebbe avere il diritto di avere almeno una stanza tutta per sé. Certo, importantissimo. No, ma non era una cosa che una donna non poteva avere. Cioè, era una cosa che, nel senso che, non è che la Virginia Woolf voleva la stanza, diceva perché voglio una stanza. La soggettività femminile non aveva la possibilità di isolarsi e di esprimersi, o comunque di avere uno spazio personale, perché era sempre concepita in relazione alle funzionalità che aveva all'interno della società. Se tu per esempio analizzi la cucina, sì, aspetta. Infatti a questo proposito bisogna riprendere alcune citazioni di Hegel rispetto al ruolo della donna nella società. Ed ecco perché uno dei primi testi femministi italiani si chiama Studiamo su Hegel. Anche Aristotele diceva di Hegel. Certo, però sai, Hegel è più vicino. Hegel è più vicino. Cos'è? Ho letto Idioti. Scusate. Allora, vi dico più o meno quello che Hegel diceva sul ruolo della donna nella società, che questo, in questo testo è praticamente, cioè, scritto bene. Non te l'hai risolto? Sì, no. Dice la chiave. Ok. Hegel pone la ragione della differenza sessuale nella famiglia, cioè parla di differenza tra uomo e donna, e dice quali sono le ragioni, perché c'è un uomo e una donna, perché ci sono dei ruoli dell'uomo e della donna, e afferma che oltre alla sfera della famiglia, quando cioè il soggetto mira all'universale facendo politica, arte e scienza, allora essa differenza diventa insignificante, non progredisce, scrive Hegel. Di fatto possiamo ammettere che sia così, ma manca ancora la ragione del fatto stesso. La risposta si trova nella lunga trattazione che al medesimo tema il filosofo dedica nella fenomenologia. Qui egli afferma e argomenta che l'essere umano supera il dato naturale del suo essere donna, uomo, e per caso, grazie alla famiglia, dove i due sono il soggetto umano. No, aspetta, scusate che questa è complicatissima, devo leggere da sola. Qui egli afferma e argomenta che l'essere umano supera il dato naturale del suo essere donna e uomo, e per caso, grazie alla famiglia, dove i due, uomo e donna, sono il soggetto umano, si spartiscono la differenza della sostanza etica. La donna prende su di sé la legge divina, e l'uomo quella umana, da cui dialettica si costituiscono appunto i rapporti tra moglie, marito, genitori, figli, fratello, sorella. Non ho capito. Allora, praticamente, nella la differenza tra uomo e donna, Hegel la teorizza, lei dice, poi a un determinato punto di politica e di sociale, questa differenza non ha importanza, però è importante all'interno della famiglia, dove si vengono a strutturare i rapporti, no? Questa è prima di Freud e Lacan, cioè Hegel cerca di dare una strutturazione alla società, cioè quali sono i rapporti della società, come assumono un significato all'interno della società, e lui dice la differenza tra uomo e donna non sono importanti, rilevanti a livello della politica, si perdono poi, perché o dell'arte o della scienza, cioè perché poi a un certo punto, a un certo livello siamo esseri umani. No? Siamo soggetti, quindi, umani. Quello che poi si sviluppa in famiglia fuori non va. No, poi questo processo perché di separazione. Arte e scienza sono attività di livello più alto, in cui lo spirito, nella invece famiglia, dove sono attività più quotidiane, umane, eccetera, eccetera, c'è questa differenza, ma quello che è interessante, è quello che abbiamo letto prima, e cioè Hegel sembrerebbe assegnare un posto importantissimo alla donna, perché dice nella legge la donna assume su di sé l'aspetto divino del nomos, cioè della legge, e l'uomo quello umano. Uh-huh. Dice, cazzo, importante allora la donna. No, però il passaggio successivo che è importante. Certo, perché sennò... Ma però forse me ne cioè, ma, io no, ma tu capisci perché umano, diciamo divino, perché? Divino perché la donna è quella che si occupa dell'educazione dei figli, gli dice la morale, quindi tutto lo stadio che poi Freud avrebbe detto un parte del superio, Hegel ammette che è della donna, perché è la donna che educa i figli, eccetera, e la donna è quella che dà il significato, virgolette, spirituale a quel livello, al livello della vita della bassa, e lei della bassa, mentre l'uomo è quello che dà l'aspetto umano. Allora, perché come si relaziona la famiglia all'esterno? E lui dice, questa relazione è cioè la relazione, poi si costruiscono queste relazioni tra padre, cioè madre e padre, genitori e figli, e poi la relazione famiglia, ultima, fratello-sorella, poi dopo quest'ultima c'è fratello che si relaziona all'esterno, non la sorella. Questa relazione è il limite raggiunto, cioè il rapporto fratello-sorella, raggiunto il quale si risolve la famiglia in sé conchiusa, procedendo oltre da sé. Il fratello è il lato secondo cui lo spirito della famiglia diventa individualità, che si svolge verso l'altro e passa nella coscienza dell'universalità. Cioè, praticamente, questo insieme di relazioni, uomo-donna, padre-madre, genitori figli, fratello sorella, il fratello va verso l'esterno, la sorella che l'essere umano, l'unico essere umano in grado di esprimere il livello universale dello spirito, per Hegel è l'uomo, perché è il fratello, che poi non è. Però per lui dice non è importante quella differenza tra uomo e donna, perché è funzionale esprimere l'universalità. Ma oltre a questo bisogna anche pensare al concetto di universalità, per cui questo procedimento, questo evolvere della storia, come dicevamo in Marx anche, ha una tensione verso l'universalità, cioè verso l'andare al compimento di un qualche cosa, di cioè scopo, dello spirito della di un storia, teos, di un fine, della storia. I grosetti non sono passati in così del caso. No. Vabbè, non lo facciamo al serio. È vero. Perché no? Non ci sono arrivati proprio, un cerno. Che non li ha portati i cosi. Voi gliel'avete dato. Voi gliel'avete dati a cosa, ma io non mi sono già potuto, io ve l'avevo detto, se ne fottono, basta che loro non conoscono le cose, e la formazione chissà perché sì, perché sono collegati dei crediti, delle robe, per cui gli serve anche a loro, perché fanno vedere che fanno dei buoni corsi senza fare di loro, ma progettati dagli studenti, che mascalzano, non ne parlare, vabbè. Dai ragazzi, andiamo avanti, se no. Vabbè, andiamo a fare cammino e ci fanno passare. Non... Ho provato anche a chiamarli, ma non mi ha risposto. Vabbè, andiamo a parlare con Rose. Sì, però bisogna adesso. Andiamo a parlare con Rose, ti disputa, ma cazzo. Qui. Allora per la guerra. Capiscono solo questo. Capiscono solo questo livello di scontro, non capiscono altro. No, per mettere un'immagine è grave, che si affeggia un po' Rose. Dove sono i progetti? Come fecero gli studenti berlinesi con Adorno nel 68. Non c'era il guanto di schianto. Col guanto. Ma visto che ci sarà un altro consiglio. Ragazzi, Jacopo è il tutor della Bibello. Non è, lo sai come tutor non possono essere tutor di insegnanti. Lo so, però allora hanno fatto il bando, il concorso, eccetera. Mariani chiamava i professori e gli chiedeva tu chi vuoi come tutor e poi lei dice, il professore dice no, io voglio Tizio, io voglio Caio, e il professore poi chiama Tizio Caio e gli dice oh, sei ufficiato, c'è il mio tutto barra assistente. Che cialtroni, che cialtroni, perché gli altri, no, poi gli altri disastri li devo fare in un altro modo, loro fanno. Esatto, mentre un tutor ne piglia 800, no, 1000, ok, allora, a semestre. Tra 1000 a semestre, 1500 a semestre, vai, 1500, allora sto registrando, no, che ne parliamo dopo, dai, parliamone dopo, non c'è proprio niente da dire, vabbè, comunque dobbiamo fare qualcosa, ce la faremo. Ok, tutta questa concezione hegeliana della questione del rapporto maschio-femmina, che è la donna la rete divina, che poi porterà l'uomo alla... si traduce pari pari anche nel marxismo, e oltre che nel marxismo, anche in quasi tutti i movimenti degli anni 60, in particolar modo poi comunque... in quelli di tensione marxista-leninista e poi ancora di più quella storia. In Russia come si è venuta la questione? No, la Luxemburg. Era è morta nel 1919, sì. Quindi ha voluto fare poco per la questione russa perché i socialdemocratici tedeschi. No, vabbè, però lei comunque sia era. Lei era, non era l'amica, non era l'amica. No. Vabbè, ma lei non è. Era un avversario teorico della Luxemburg. Allora. I NUS fanno una legislazione paritaria molto avanzata, emancipatoria per la donna, di sessi, realtà poi questa cosa dura poco, perché dopo nel casino della guerra civile, della NEP, eccetera, eccetera, diciamo, però adesso comunque i meccanismi economico-sociali di base riproducono il ruolo tradizionale della donna, perché ovviamente non c'è da fare, quindi con una legislazione avanzatissima in realtà le, diciamo, i progressi reali sono quasi nulli, insomma, perché storicamente le cose... Lorenzo, ti posso chiedere però di tornare un attimo sulla differenza tra i movimenti precedenti per l'emancipazione e quelli per la liberazione e di spiegarti come mai, allora, perché è quello che stai cercando di fare adesso, perché nascono i movimenti di liberazione nel 60. Vabbè, i movimenti di liberazione erano nel 60. Fai un quadro generale. Vabbè, ma storico non lo so, no, perché non ho proprio una, diciamo, cioè, sto leggendo. Io ho capito, le sufragette... Allora, le sufragette... Le sufragette sono mai viste, quando erano... No, sì, sono stati diversi, movimenti di tipo masturbatorio. Nel le momento in cui le domande, sì, le donne, cioè praticamente... Come? In Italia c'erano? Un poco, ma... Beh, il suffragio universale in Italia è il 47, sì. Quello, il concorso concesso alle donne, il processo del 1947, l'accesso alle università è stato intorno agli anni 20? Negli anni 30. 30, diciamo, la come si chiama Montessori, una delle prime donne. Montessori è di prima ancora, ma Montessori è una delle, cioè, era il caso, cioè una delle prime donne in Italia a studiare. Una donna che ha formulato una teoria psicopedagogica tra le più avanzate del mondo ed è riuscita a sperimentarla in alcune scuole italiane. Allora, la prima, una delle prime, sì, allora, io ho fatto le scuole elementari negli anni 50, perché questa è la mia età, e mi ricordo che mia madre diceva: ah, ma no, andiamo lì, dove andiamo? No, lì no, perché c'è il metodo Montessori. No, no, andiamo in una scuola tradizionale. 1950, 49, 50, mia madre diceva: no, ma lì c'è il metodo Montessori. Vabbè, la donna addirittura... Una donna, insomma, diciamo, l'accesso alle università, insomma, gli anni 30 incominciano ad accedere all'università in maniera... con maggiore rilevanza. Diciamo, fino allora ci sono stati diversi movimenti femminili per la rivendicazione di diritti, tant'è che poi comunque anche nella Italia, in Italia, allora, per esempio in Italia si può distinguere, nella storia del femminismo c'erano due posizioni, c'erano il regime fascista aveva utilizzato le donne nel periodo della Repubblica di Salò come forma di propaganda del benessere delle truppe fasciste con quelle che si chiamavano le repubblichine. Sì. Cioè, ed erano, sì, le repubblichine erano un corpo speciale di donne che erano state prese per combattere contro gli invasori americani e difendere la nazione, i partigiani. Le repubblichine allo stesso tempo però erano state anche quelle che poi erano stati sconfitti, sono state quelle messe avanti nei cortei in cui i fascisti erano dileggiati nelle manifestazioni erano anche quelle che sono state messe avanti e erano quelle che poi sono state poi anche colpite dalla folla incazzata contro di loro, quindi erano anche le donne che poi dopo hanno subito anche l'umiliazione della sconfitta. Quando dopo la liberazione i eccetera scoprivano una donna che era stata con il lavorazionista, di norma la portavano per strada seminuda e le rasavano i capelli. Sì, le rasavano i capelli. Era questa cosa di umiliazione pubblica totale. Però erano comunque donne che avevano deciso di entrare nel corpo militare, in un regime comunque in cui l'accesso alle scuole non era così scontato per le donne. Anzi, c'era comunque... Sì, no, c'erano per esempio una dei... nel movimento futurista c'era una donna che però era moglie di... Di Maria. Notte. Ah, no, ma anche la moglie... Notte era una... Cioè anche abbastanza importanti dal punto di vista dell'arte, della donna, sì. Comunque c'è dei quadri ancora futuristi, a parte questo. E dall'altra parte invece c'erano le donne legate al movimento partigiano, quindi che abbiamo preso. Ma c'è un bellissimo documentario fatto dalla Storia Siamo Noi, dalla Rai Education, sì, fatto sulle donne nella guerra, e in cui c'erano le donne, erano anche quelle che portavano avanti la borsa nera nel periodo della guerra, cioè quelle che permettevano comunque che le famiglie potessero sopravvivere, mangiare, vivere qualche cosa. Furono anche quelle che poi avviarono i processi di assalto ai forni, perché erano quelle che poi rimanevano a casa, erano quelle che poi rimanevano con la famiglia mentre i mariti magari erano a combattere, e poi una parte di queste erano anche quelle che facevano, erano proprio le partigiane che combattevano sul campo e venivano, cioè andavano lì sul campo, in realtà poi delle donne, cioè, lo sbarco dei turchi, dei musulmani, quello, la Ciociaria, la Ciociara di Moravia, insomma, diciamo, nel periodo, il ruolo politico delle donne, sono contento di avere detto sulle donne di Cattabrighe, è bellissimo. Chi è? Sì. Dove sono nato? Ah, di Cattabrighe, per posto. Ah, niente. Ciao, sono a casa di Loretta con gli altri, che facciamo una cosa. Chiudi. Perché? Insomma, vabbè, le donne, cioè, per esempio, in Italia una delle... Comunque in Romagna ci sono le prime, ci sono delle famiglie che sono matriarcali in Romagna. Matriarcali per motivi, ne riparliamo. Raccontati che cosa. Matriarcale nel senso che c'è la madre ha una organizzazione del campo. Sì, tutta la mediana, c'è la droga, sì, non è. A casa mia come la mia nonna. Andiamo. Allora, no, tipo anche in Italia, tipo tra le grandi. Ma non dare a tutte le provocazioni di Bertolt. No, per dire. Tra le partigiane grandi, per esempio, c'è la Nilde Iotti, che poi comunque è entrata anche in Parlamento. Perché era l'amante di Togliatti, è entrata in Parlamento. Comunque anche una donna che aveva delle sue considerazioni. No, Togliatti non si prega. Anche le maschere, considerazioni maschilista del cazzo che hai fatto in questo momento. Ed è anche ma Loretta, no, bene, perché era l'amante di Togliatti. Fatta apposta perché ok, eh sì, infatti chi lo diceva? I maschi. Banco. Anche molte donne però. Va bene, e lo diceva. C'è allora una delle Ma che vuol dire? No, sì, io però non so veramente la geografia politica della cosa. Allora, una delle negli Stati Uniti, sì. Vabbè, ma il movimento negli Stati Uniti è un po' più di emancipazione. No. Vabbè, ma quello sessuale, ma io questo non lo so, storicamente non lo so. No, questo io non lo so, la storia del movimento femminista americano non lo so. Non così politico, però, diciamo, liberatorio. Certo. Sessuale, cioè sulla scia della liberazione sessuale. Cioè, la variante, diciamo, femminile dei movimenti reichiani o dei movimenti diciamo, di liberazione sessuale di una parte della cultura radicale che era in America più sviluppata che da noi. Ma io sinceramente del movimento, cioè proprio della parte storica, ragazzi, non ne so molto, perché comunque non c'è quel periodo. E non è che ci siano grandi cioè non ci sono dei libri. Infatti proprio benissimo, cioè non è che siano proprio totalmente, vabbè, comunque ce ne sono comunque tre che dirò. Allora, rispetto a questa cosa hegeliana, rispetto alla teoria hegeliana, stavo dicendo, le donne cominciano ad entrare di più nelle università e quindi anche a elaborare teorie, hanno accesso di più sia nella filosofia, con la psicanalisi, sia nella politica, hanno accesso anche diciamo di più maggiore a tutto l'aspetto di elaborazione teorica. E sulla scia anche dei movimenti americani, in Italia la partecipazione femminile ai movimenti degli anni 60 è molto più ampia rispetto a come era prima, cioè prima era soltanto di appoggio a lotte totalmente maschili, invece nel periodo degli anni 60 si può dire che le donne diventano protagoniste per se stesse all'interno dei movimenti e delle mobilitazioni sociali che ci sono. E molte si associano ai gruppi politici che ci sono in quel periodo, che sono, abbiamo detto, abbiamo visto, sono prevalentemente marxisti, e alcuni hanno delle tensioni verso il leninismo e altri stalinismo, oppure ci sono diverse correnti di pensiero. Quello più importante naturalmente è quello che abbiamo visto, era di potere operaio, che era quello anche più diffuso, prima non in maniera sistematica come un vero e proprio gruppo riorganizzato, poi dopo più in là il gruppo si organizza proprio come un partito. E all'interno di questo gruppo ci sono delle donne anche teoricamente anche molto importanti, tra cui c'è Carla Lonzi. Carla Lonzi è una delle prime che si organizza insieme ad altre donne. Allora, nel periodo degli anni 60 c'è tutto il periodo del movimento della liberazione sessuale, c'è una rielaborazione di determinate componenti che Freud avrebbe chiamato nevrosi, di alcuni elementi della sessualità che vengono messi in discussione, avviando tutto un processo di liberazione, però che non ha una componente spiccatamente al femminile, ma è un processo di liberazione generalizzato. E in questo processo di liberazione le donne incominciano ad assumere anche una consapevolezza maggiore, perché comunque nei confronti delle donne ci sono i veti maggiori, anche soprattutto rispetto alla questione della virginità, alla questione del ruolo sociale della donna, e per cui comunque questo movimento di liberazione porta anche a una maggiore consapevolezza del ruolo, del proprio ruolo all'interno del sociale. Carla Lonzi è la prima però che incomincia a mettere, che pubblicamente, attraverso la pubblicazione di questo manifesto di rivolta femminile, è quella che praticamente crea il terremoto all'interno dei movimenti, soprattutto nei gruppi politici, in tutti i gruppi politici, perché è la prima che non vede il nemico, se si può parlare di nemico, nella società generalizzata e in una serie di stereotipi legati alla donna, ma lo vede proprio nella analisi teorica e filosofica che c'è e che appartiene anche ai movimenti marxisti e soprattutto nella critica, nell'analisi che fa Hegel della donna, la vede come trasposta completamente nelle modalità di azione dei movimenti di quel periodo, e nel suo manifesto praticamente afferma, che è una cosa interessante, cioè nei movimenti di quel tempo c'era una tensione verso una parità della donna nell'uomo, con l'uomo, cioè tutti questi gruppi avevano ben chiaro l'idea di emancipazione femminile, certo, e quindi però di attribuire alla donna la stessa, lo stesso specifica, sì sì no specifica. Infatti per esempio già prima del 68 si era formato all'interno del Partito Comunista l'UDI, l'Unione Donne Italiane, che era un gruppo che si occupava di tematiche femminili e dei diritti delle donne. Questo è stato il primo vero organo più importante, in cui poi tutte le femministe storiche sono tutte, quasi tutte da lui, le donne italiane, ma anche quelle che poi scrivono dentro l'Unità o che scrivono adesso sui grandi giornali, erano tutte anche persone che venivano dall'UDI, che era l'Unione Donne Italiane, che faceva capo al Partito Comunista. E poi però l'UDI si sveglia come tutti i partiti nel periodo del 68, cioè comunque i partiti una tensione più al rifiuto dell'organizzazione partitica, verso una spontaneità dell'organizzazione dei gruppi. Soprattutto questo movimento di liberazione sessuale porta anche a un allontanamento dall'organizzazione partitica, per poi ricomporsi di nuovo in organizzazione partitica con un potere operaio nella porta. Sì, ma la liberazione sessuale però avviene più al di fuori dei movimenti sociali, la componente hippie. Quelli che facevano poi sarà portati di quelli di Tracolambo degli anni 50, è lì che si. Allora lì la parità diviene effettiva, e in questi gruppi, per quanto faticosamente, alcune donne, per esempio Renudo, è gestito da una coppia di fratello e sorella, che sono Andrea e Marina Valcarenghi, e lei è un personaggio pubblico, non c'è quasi altro, mentre sono pochissime dirigenti femminili di gruppi politici, lotta continua, potere operaio, eccetera, nella componente hippie del movimento, che è molto distante da quella virgolette politica, per dire, c'è una donna, che è questa Maria che adesso fa la psicanalista, la giornalista, eccetera, no? Però solo lei e lui, cioè fratello e sorella, che gestiscono quasi in modo quasi paritario. Queste tensioni invece nei gruppi rimangono, certo, i gruppi hanno un'impostazione assolutamente ugualitaria, però ugualitaria non è tanto diversa da dell'UDI, cioè dicono le donne, non c'è nessuna rimessa in discussione profonda del modello del profondo. Invece questo è quello che sì, farà. Allora sì, farà vabbè, comunque è tutto è da leggere. Che beh, comunque è frase per dire. Allora, lei comunque avvia poi il discorso della separazione, insomma, leggiamo un attimo il manifesto che è più carino. La donna come soggetto non rifiuta l'uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Nella vita sociale lo rifiuta come ruolo autoritario. Finora il mito della complementarietà è stato usato dall'uomo per giustificare il proprio potere. Le donne sono persuase fin dall'infanzia a non prendere decisioni e a dipendere da persone capaci e responsabili, il padre, il marito, il fratello. L'immagine femminile con cui l'uomo ha interpretato la donna è stata una sua invenzione. Verginità, castità, fedeltà non sono virtù, ma vincoli per costruire e mantenere la famiglia. L'onore è la consuente codificazione repressiva. Poi quando parla del matrimonio. Allora, il primo elemento di rancore della donna verso la società sta nell'essere costretta ad affrontare la maternità come un out. Denunciamo lo snaturamento di una maternità pagata al prezzo dell'esclusione. La negazione della libertà dell'aborto rientra nel veto globale che viene fatto all'autonomia della donna. Vabbè, lei poi comunque introduce anche degli elementi di diritto, di rivendicazione. Certo, però sono ancorati a discorsi. E poi inizia, sputiamo su Hegel. Che è lo stesso anno di questo 1900. Dalla grande umiliazione che il mondo patriarcale ci ha imposto, noi consideriamo responsabili i sistematici del pensiero. Essi hanno mantenuto il principio della donna come essere aggiuntivo per la riproduzione dell'umanità, legame con la divinità o soglia del mondo animale, sfera privata e pietas. Hanno giustificato nella metafisica ciò che era ingiusto e atroce nella vita della donna. Sputiamo su Hegel. La dialettica servo-padrone è una regolazione dei conti tra collettivi di uomini. Essa non prevede la liberazione della donna, il grande oppresso della civiltà patriarcale. La lotta di classe, come teoria rivoluzionaria, sviluppata dalla dialettica servo-padrone, ugualmente esclude la donna. Noi rimettiamo in discussione il socialismo e la dittatura del proletariato. E poi... E poi la parte più interessante che inizia, in cui lei incomincia a teorizzare la separazione dagli uomini, cioè la parte del fare esodo, del segnale, creare significazione. L'uomo ha sempre parlato al nome del genere umano, ma metà della popolazione terrestre l'accusa ora di aver sublimato una mutilazione. La forza dell'uomo nel suo identificarsi con la cultura, la nostra nel rifiutarla. Dopo questo atto di coscienza l'uomo sarà distinto dalla donna e dovrà ascoltare da lei tutto quello che le concerne. Non salterà il mondo se l'uomo non farà più l'equilibrio psicologico basato sulla nostra sottomissione. Tagliamo molto del credito dato agli accademici della cultura, vogliamo essere... Leggiglielo, che sono due parole. Dopo questo atto di coscienza l'uomo sarà distinto dalla donna e dovrà ascoltare da lei tutto quello che le concerne. Non salterà il mondo se l'uomo non avrà più l'equilibrio psicologico basato sulla nostra sottomissione. Nella cocente realtà di un universo che non ha mai svelato i suoi segreti, noi togliamo molto del credito dato agli accanimenti della cultura. Vogliamo essere all'altezza di un universo senza risposte. Noi cerchiamo l'autenticità nel gesto di rivolta e non la sacrificheremo né nell'organizzazione né nel proselitismo. Comunichiamo solo con le donne. Allora, praticamente... l'atto di separazione che la poi vabbè c'è proprio tutto il saggio su Hegel in cui proprio spiega perché fa tutta la teoria hegeliana e spiega perché lei arriva a rifiutare l'idea di un futuro ideale di liberazione del proletariato in cui la donna non è altro che strumento di liberazione, di strumento per arrivare a questa liberazione, in cui però la donna non è né un soggetto, ma è soltanto unita in un umano, in un umano universale. E questo manifesto praticamente costituisce una delle rotture più forti, perché che cosa dice la LOM? Si dice: finora noi siamo state donne all'interno di una causa comune in cui il ruolo come donne non c'era riconosciuto, non c'era nessuna analisi su che cosa significava essere. Allora io ti dico, va bene, non ha nessuna importanza l'estinzione uomo-donna nel rapporto con la società? Allora che cosa succede se io non ci sono più? Cioè qual è l'atto che lei propone di separazione, di rifiuto, non è di rifiuto dell'uomo, cioè non è di dire tu uomo sei uno stronzo quindi io con te non voglio più avere a che fare, è un dirti guarda che se io me ne vado succede qualche cosa di diverso, e fino ad allora magari le comunicazioni con gli uomini non erano state altrettanto efficienti quanto quella di dire basta me ne vado, cioè faccio esodo. Nel momento in cui tu non riesci a comprendere che bisogna fare un discorso diverso e non quello che le hanno della relazione uomo-donna in un rapporto che poi porta all'essere umano totale e universale, ma in un rapporto di liberazione dei concetti di uomo e di donna, allora io per metterti evidente, per rendere evidente la differenza che fa una donna, mi sottraggo, cioè, che poi è l'idea dell'esodo anche, che poi riprende Virno in generalizzato. Però in questo caso era un sistema di creazione di un nuovo confronto, cioè non era una separazione che poi non come molti maschi lo interpretano nella politica contemporanea come isolazionismo, come elemento di fermare la produzione, cioè nel senso nel momento in cui tu ti isoli e loro dicono se ti isoli tu blocchi la condivisione, blocchi l'andare avanti, ma io mi isolo perché si tratta di una situazione in cui la mia differenza, il fatto che io sono donna, non riesce ad esprimersi, ok? E quindi il mio isolamento è soltanto un sistema per farti capire che c'è. Nell'assenza si crea un vuoto, e quel vuoto, è la mia presenza, quel vuoto fa capire che c'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa che ha bisogno di essere espresso e che non riesce ad esprimersi. Che in quel momento, nel momento in cui c'erano le lotte negli anni 70, non si esprimeva per quello che era, ma si esprimeva in un tutt'uno che era maschile, in tutt'uno che era considerato un neutro maschile, una lotta universale, un qualche cosa che era per la ricreazione dell'idea dell'uomo, tutto molto sul maschile. Diciamo che questo primo gesto che fa la Lonzi, e a cui invita poi tutte quante le donne dei movimenti, è un movimento veramente di rottura. Infatti tipo nel libro Non credere nei veri diritti, che poi è quello che è anche loro lo chiamano Gallina in fuga, la cosa delle Gallina in fuga dopo il film, quindi sì, questo è scritto diciamo 10 anni fa, racconta un po' la storia delle cose, cioè e all'interno del potere operaio costituisce una cosa devastante, sì, una cosa devastante. No, la gara venati 7 anni dopo dagli eredi di operaio. Le donne si separano. In contemporaneamente. Si separano che cosa vuol dire? Incominciano già nel manifesto dei, sia nel manifesto di rivolta femminile, che poi aspettiamo su Hegel, le cose, incomincia a teorizzare i processi di autocoscienza, cioè delle riunioni, infatti quando lei dice parliamo con sole donne, propone alle donne di parlare tra di loro e di auto-organizzarsi. In realtà all'inizio non ha tutta questa consapevolezza dell'autocoscienza così complessa come poi avviene poi nel tempo attraverso anche l'utilizzo della psicanalisi e di altre teorie che poi vengono introdotte nel femminismo. Ma all'inizio ha solamente di riconosciamoci tra donne e cerchiamo di individuare come possiamo creare un significato diverso, come possiamo far emergere l'essere donna all'interno di questi movimenti. E lei già incomincia a ipotizzare di parlare tra solo donne e si avviano, poi iniziano a nascere i primi gruppi di autocoscienza, quelli che vengono chiamati di autocoscienza, ma i gruppi di autocoscienza non erano la maggior parte delle volte si esprimevano, l'autorità maschile si esprimeva nel fatto di voler appartenere a questi gruppi di autocoscienza. Cioè il fatto che gli uomini entravano nei gruppi di autocoscienza dicevano, ma perché io come uomo non posso entrare nel gruppo di autocoscienza? I gruppi di autocoscienza servivano alle donne anche per parlare delle proprie problematiche, come soggetti che si riconoscevano avere le stesse problematiche. E il fatto che l'uomo volesse per forza entrare in questa cosa e non accettasse la presenza di un qualche cosa che non regolava, che non conosceva, era anche una voglia di dominio su quello che non conosce, su quello che non gli è proprio, una voglia di riappropriarsi di quello. E quindi quei cose, ma anche lei lo dice, l'autocoscienza non è un'azione di contro l'uomo, non ha questa connotazione, anzi è uno strumento che serve alla donna anche in un processo di liberazione dell'uomo, non è soltanto una cosa che serve alle donne, ma perché comunque è uno dei primi gesti che le donne fanno per loro stesse, è uno dei primi gesti politici che fanno come gruppo, come per creare una consapevolezza. Questo avviene sia in Italia che in Francia prevalentemente, nei gruppi diciamo di autocoscienza sono molto italiani e anche francesi. Ci sono meno. Mentre l'attenzione, cioè tipo la cosa che viene dall'America è di prevalentemente sì di liberazione, ma anche ha una forte componente di emancipazione, cioè di diritti relativi alle donne, o anche se poi no, sì, anche liberazione poi. Il gesto che simbolicamente in quegli anni fece più scandalo il mondo, no, è stato fu il rogo dei reggiseni. Questa era una pratica tipicamente americana. Le femministe americane identificarono nel reggiseno, ovviamente quelle che avevano meno della quarta o della quinta misura, insomma da un certo punto di vista no, perché di fatto identificarono nel reggiseno, già questo è il simbolo della nostra costrizione, no? Voi ci volete così, ci volete, allora noi nelle manifestazioni che erano unitarie, maschi e femmine contro la guerra del Vietnam, molti gruppi di donne, di femministe americane, di insomma, studentesse in genere americane, portavano in braccio, se lo sfilavano, alcune se lo mettevano nella borsetta, eccetera, facevano dei grandi roghi di reggiseno. Questo scandalizzò moltissimo la gente, perché già lo voi spiegare. E poi ci fu il simbolo della sua vagina. Senti, posso farti una circondica domanda ponendoti un'obiezione? No, ma tu dimmi, perché io per esempio No, voglio farti una domanda ponendoti un'obiezione che gli uomini, che i maschi politici dell'epoca facevano alle donne in quel periodo, e voglio sapere se tu mi vuoi rispondere come rispondevano le femministe all'epoca o come risponderesti tu ora. Insomma, allora, una delle obiezioni possibili è su questa. Non capisco perché voi volete fare delle riunioni separate per farvi l'autocoscienza tra di voi, perché noi siamo consapevoli come voi che esiste una questione femminile e che le donne hanno, diciamo che gli esseri umani di sesso femminile, quindi le donne hanno delle problematiche particolari. Ma proprio perché delle donne hanno delle problematiche particolari, dobbiamo discutere tutti insieme, perché poi sarà soltanto la lotta comune tra noi e voi che potrà portare anche voi ad avere questa cosa. Com'è che rispondevano o come rispondevano tu? Ma io non lo so come rispondevano allora, e non so, cioè io posso capire che allora loro ci fosse una condizione politica molto diversa e comunque anche una condizione sociale in cui le donne non avevano quel livello di liberazione, non di emancipazione che hanno adesso. Cioè adesso sono soggetti molto più forti, sono soggetti politici anche molto più forti. mentre allora si costruivano già, si stavano costruendo come soggetti politici, e la presenza maschile poteva in quella situazione portare avanti l'idea che ci fosse c'era l'idea che comunque i discorsi non erano neutri, no? Non c'è una neutralità del discorso. La cosa che emerge sputiamo su Hegel è che non c'è un universale a cui tendere, un soggetto umano. C'è la domanda, già dire problemi particolari, già dice quello. Cioè. Sì. Allora il fatto di escludere il maschio nel processo linguistico, perché permetteva anche di escludere una serie di difetti di ragionamento che facevano interpretare delle cose come neutri che invece appartenevano alla cultura maschile, e non permetteva l'emergere di tematiche che erano particolari del femminile. Ok, io adesso sto usando non particolari, che erano specifiche del femminile. Cioè, io adesso sto usando femminile e maschile, ma questa opposizione nel femminismo contemporaneo è anche stata superata. Cioè, non c'è più l'opposizione femminile e maschile. E non si parla più di uomo o donna. Cioè, questo tipo di opposizione non è più presente. Ma in quel periodo, ma penso che anche adesso, i gruppi di autocoscienza, o comunque i gruppi di narrazione delle proprie storie, servono a far emergere, a trovare comunque nell'altro una parte dei propri significati, ma anche ad elaborarla attraverso quella che era una pratica psicoanalitica. Cioè, i gruppi di autocoscienza poi man mano mostrano qual è la loro origine, che è tutta quanta derivata dalla psicoanalisi, cioè dall'idea che attraverso il linguaggio, attraverso lo scambio di parole tra soggetti, sia possibile far emergere il rimosso della società, però in quel caso era... Il rimosso della società per questi gruppi femministi. Qual è il rimosso più... Cioè l'idea che il patriarcato era il... Il patriarcato presentato, ma tu lo chiami presentato come una realtà, sono uomo, non ti dico. Il patriarcato presentato come un ideale futuro. Il patriarcato come un ideale futuro, no? Beh, come una pratica reale. Sì, come una pratica reale. Le ma poi nell'ottica di una pratica reale, nell'ottica di un ideale futuro di liberazione della proletariato. Sì, okay, ma allora il rimosso, se non ho capito male, per questi gruppi femministi è la sostanza maschile o maschilista di una direzione politica, sociale, dell'immaginario globale ammantata di neutralità. Cioè il maschio mai dice io ti domino, il maschio dice io interpreto la razionalità generale, le cose devono andare così perché la razionalità porta a questa razionalità, dice la donna, è falsa, ecco dove sta il rimosso. Ed ecco perché la donna rivendicava in quel periodo, in parte rivendica ancora adesso, la necessità di avere un momento separato per sé. Perché? Perché c'è questa menzogna, diciamo, generale, c'è questa diciamo, finzione per cui il pensiero maschile e la pratica maschile si presenta come universale o come neutra, mentre non lo è, mentre è determinata da una dialettica di genere. Questa situazione non è simmetrica, non c'è una analoga diciamo, volontà o pratica femminile di diciamo, esprimere delle posizioni o delle pratiche legate al femminile che si presentino come universali. Quindi il separatismo, l'esodo, diciamo, le riunioni di sole donne, i gruppi di autocoscienza e i cortei di sole donne a cui noi maschi militanti di quegli anni sentivamo con una rabbia di essere esclusi, perché il corteo, la cosa dello scendere in piazza era il nostro cosa, e noi eravamo questi gruppi di donne che andavano per i cazzi loro e non volevano i maschi dentro. Ma la ragione stava nel fatto che, essendo squilibrato questa cosa, perché la parte maschile aveva non solo un suo ambito, ma aveva la possibilità di esprimersi addirittura come voce generale, si travestiva la voce generale, le donne non ce l'avevano, non era possibile altro che questo, non era possibile altro che loro si separassero. Oltretutto in questa visione c'è anche una grande capacità politica delle donne nel capire dell'impossibilità di analizzare un sistema cioè della illusione di poter analizzare un sistema da lì fuori quando si è all'interno. Cioè nel senso che questi gruppi di autocoscienza, le donne non dicevano la condizione, non hanno fatto una teorizzazione della condizione della donna con il libro, vabbè sì, c'erano manifesti, c'erano una serie di teorie, ma la pratica dell'autocoscienza serviva alle donne ad analizzare una situazione femminile che non davano per scontata, perché in tutte le teorizzazioni che c'erano, c'era una consapevolezza che ci fosse un difetto del neutro, del maschile che era travestito da neutro. Per cui la pratica dell'autocoscienza serviva per far emergere, cioè per cercare di evolversi come soggetti all'interno di un sistema che non era semplice da individuare, perché si nascondeva ovunque. Anche perché era già assorbito. Sì, sì, totalmente. Nella tua pratica, cioè non ti accorgevi neanche più di fare né l'uomo né la donna. L'uomo, cioè, moltissimi dei compagni erano in perfetta buona fede, loro dicevano, ma come? Perché no? Non posso venire con te? Anch'io sono per la depressione della donna. Ma no, ma c'erano anche cose molto semplici. Allora, per esempio, le cose che emersero prevalentemente sono la questione del lavoro domestico, della casa, delle casalinghe. Allora, i servizi che li fai in casa. Allora, questa era una cosa che sembrava di una semplicità, di una banalità, di una stupidità. Allora, anche ingenuità, che poteva dire, vabbè, ma a noi adesso, se tu guardi, tipo, su Rai 3, fuori orario, guardi quei gruppi di ascolto in cui le donne rivendicavano all'uomo che non lavavano i piatti, no? Erano cose che ancora adesso alcune volte possono succedere, certo, ma allora costituiva una rottura enorme, perché il fatto di lavare i piatti, io dice, ma perché? Io comunque vado a lavorare in fabbrica, perché devo lavorare così? Ma perché torno a casa, allora c'era tutta una questione di ruoli che erano talmente tanto introiettati che era difficile, sì, che lo sono anche adesso, che sono anche molto, quando adesso vi do una donna che lavoro fa, che dice la casalinga, perché è un lavoro non sì. E allora i gruppi di autocoscienza servivano anche per parlare di queste cose molto banali del quotidiano, cioè si servivano anche tipo per analizzare quello che facevi giorno per giorno, cioè quello che era tipo oggi mi alzo, vado a questo, faccio questo, perché lavo i piatti, perché li ho lavati, perché il mio compito. E si parlava tra donne rispetto a queste cose. Parlando e analizzando il vivere, il quotidiano, le relazioni anche tra il tuo vivere e tutto quello che tu vivevi, serviva per far emergere una serie di condizionamenti e di strutture di pensiero che erano comunque legate a una società, però nella consapevolezza di non poter portare una soluzione, né di essere depositare di un sapere di quello che è la donna, ma di doverlo costruire insieme ad altre donne. Cioè non c'erano delle teoriche che dicevano la donna, a parte Simone de Beauvoir, è una vera femminista. Simone de Beauvoir si nasce con l'altro sesso della metà degli anni, sì, degli anni 50, Simone de Beauvoir è una teorica, una filosofa esistenzialista, che fa una critica alla condizione della donna, e dice le donne sono troppo vittime. In realtà il vittimismo delle donne è preso di mira anche da questo femminismo della liberazione, perché le donne non sono lì a rivendicare diritti, non sono lì a dire tu mi domini, tu mi fai mi opprimi, queste cose, assumendo un ruolo da vittima, ma anzi cercano di emergere e liberarsi da questa cosa, non delegano all'uomo la idea di doverla liberare, perché nel momento in cui tu fai la vittima dici io voglio, e l'uomo ti concede terreno, mentre il pensiero dell'autodeterminazione o comunque dei gruppi di autocoscienza era quello di liberarsi da sole, di autoliberarsi da cosa. Quindi anche per questo, capito, che l'uomo veniva nel gruppo di autodeterminazione, di autocoscienza, per dire io vi aiuto, possiamo arrivare. No, non sei tu che mi devi aiutare, sono io che mi devo liberare. L'ho capita bene. Ti posso chiedere un'altra cosa, perché mi sembra che sia, no, in parte l'hai detto, ma se ci spieghi un po' meglio che puoi il significato di quest'altro slogan che fu un grande scandalo per i tempi, il personale è politico. Perché le femministe dicevano il personale è politico? Ma perché era questa cosa delle relazioni del quotidiano. Allora, il personale non nel senso che le cose personali, cioè diciamo, il personale nel senso di analisi della quotidianità, l'analisi delle relazioni, l'analisi delle realtà contingenti, delle cose che ci sono vicine. Cioè il personale nei termini di capire quello che si fa ogni giorno, capire attraverso le persone che ti sono vicine, che comunque ti... personale, e capire che ruolo hanno queste componenti, quello che fai ogni giorno a livello della politica, a livello del sociale, cioè analizzarlo, smontare il politico e il personale. No, nel senso che certo queste cose hanno sul politico, ma anche il politico ha probabilmente dei riflessi. Ma quello sulla è sempre vita. Stato così. Ecco, cioè il politico ma è sempre stato. Come mai le femministe pensano che anche o solo addirittura prevalentemente in certi personale casi muovendosi dall'ambito di questo quotidiano si possa cambiare? Vabbè, ma perché la critica fondamentale è alla struttura politica, al concetto di astrazione. All'idea di astratto. Allora, poi si passa direttamente alla Murano e alla... Vabbè, prima di passare alla Murano devo fare la psicanalisi. Però, per esempio, rimanendo nella questione dello strutturalismo, no? La Murano è una studiosa che si è occupata, vabbè, lei è studiosa di mistica, però un altro scritto importante di quel periodo è questo Maglia Uncinetto, e che si chiama, che ha come sottotitolo Racconto linguistico-politico sull'inimicizia tra metafora e metonimia. Allora, i gruppi di autocoscienza partivano da una base di psicoanalisi e quindi arrivavano attraverso tutte le teorie sul linguaggio, sulla capacità di elaborare attraverso il linguaggio il rimosso, no? E abbiamo detto che cos'è il rimosso, che cos'era questa cosa. E le analisi teoriche che si fanno su questo sono... anche nell'ambito del femminismo, relativi al linguaggio. Cioè, come avvengono i processi di significazione? La Muraro studia in questo libro, parte da Jacobson, che è un altro strutturalista, che è uno che successivamente, che studia successivamente, subito dopo Saussure, la linguistica. In Jacobson, uno degli... Vabbè, in Jacobson, a parte tutto lo schema del mittente, del messaggio, del destinatario, le funzioni del linguaggio, la Muraro prende in considerazione un particolare processo, cioè non particolare, perché Jacobson comunque costruisce molte teorie riguardo a questa cosa, di significazione. Cioè, quando dico processo di significazione è chiaro che cosa intendo, cioè il processo secondo attraverso il quale tu dai un significato a una cosa. Allora, per Jacobson sono due fondamentali, metafora e metonimia. La metafora è un processo di significazione per astrazione, cioè un processo che prevede da un'idea generale che tu attribuisci, allora, per esempio, il significato che lei fa, tipo, sembra che faccia... come esempio faccia l'esempio della coraggioso come un leone, no? E tu comprendi il significato di coraggioso quando lo associ al leone, ma questo processo lo associ tipo Alessandro è coraggioso come un leone, cioè Alessandro e il leone non sono due cose che sono vicine per composizione, per cose, che il leone è un animale, vive in un altro luogo, vive in una cosa. Tu sai astrattamente che cos'è un leone, sai che ha un coraggio, e per astrazione attribuisci ad Alessandro quel coraggio che ha il leone attraverso un processo di immagine astratta che hai del leone coraggioso. Mentre diverso è il processo di metonimia. Il processo di metonimia non avviene per astrazione, ma avviene per contiguità, cioè per vicinanza, per prossimità. Il processo metonimico è quello, per esempio, che quando tu parli di una nave dici la vela. Tu dici, ah, ho visto una vela, per indicare che hai visto non solo la vela, ma hai visto tutta la vela, hai visto tutta la barca, stai parlando di una barca, non stai parlando soltanto della vela. Stai parlando di una cosa, la vela in quel momento diventa la barca. E quindi quello è un altro processo di significazione, per contiguità. La vela e la barca sono le cose vicine, no? Allora, la critica che in Mario Uncinetto la Muraro fa alla società contemporanea, ma anche alla politica di quel tempo, è una critica di eccessiva astrazione. Di essere troppo metaforica, cioè di essere troppo lontana dalla realtà, dalla contingenza, proprio dal rapporto di relazione, dalla connessione con gli altri. Quindi di essere strutturata, lei parla di ipermetaforizzazione del mondo. Per cui comunque, man mano, attraverso i sistemi concettuali, si è arrivato quasi a costruire un mondo altro che non ha niente a che vedere con la relazione e il reale, no? E quindi lei... Quella stessa cosa che si dice nel metodo deduttivo, chiamo di Aristotele. La stessa cosa è la stessa critica che puoi fare al metodo scientifico quando questo pretende di esaurire il reale. Cioè, il metodo scientifico è un'astrazione ad un livello altissimo, no? Di tipo quasi metaforico. Quello che fa l'Haraway anche dopo. Quello che fanno molte altre psicologhe, anche la Evelyn Fox Keller, ci sono diverse scienziate, biologi, che si hanno fatto una critica della scienza proprio in questo senso. In questo senso. Allora loro la fecero della politica. In realtà con la passata del tempo si è visto che tutti i saperi sono situati, come dice la Haraway, cioè che c'è un procedimento di costruzione tale, di astrazione tale, per cui questi sistemi sembrano poi apparire come neutri, come espressione del mondo e della realtà. Come strutture che esauriscono il reale. Ma non c'è mai un io astratto che parla. Le teorie di Freud sono le teorie di un maschio ebreo benestante nella Vienna di fine 800. Elaboratissime, bellissime, ma tengono conto di questa, diciamo, determinazione. Uno non si può mai dimenticare quando parla, è sempre un corpo che parla da un luogo preciso e in un tempo preciso, quindi i saperi sono situati, situated knowledge. Che questo scritto della Muraro incomincia a rompere dice c'è un grandissimo dibattito in tutto il movimento su questo scritto, perché incomincia a porre le critiche al processo di astrazione politica, no? E a tutte le strutture politiche, tali per cui i grandi teorizzatori incominciano ad essere messi in discussione per eccessiva astrazione, di separazione dai processi di significazione più di contiguità. Allora, la Muraro non fa un discorso del tipo io sono donna e quindi sono metonimica e tu sei uomo, sei metaforico. Lei dice che c'è stato un procedimento nel corso del tempo per cui si è arrivato a un grosso processo di astrazione e di ipermetaforizzazione e che si sia perso nel tempo il processo metonimico, quello per contiguità. E quindi che l'obiettivo sarebbe quello di sì mantenere il processo metaforico, ma far riemergere quello metonimico, cioè far riemergere, è come nel movimento femminista riemergeva il processo di significazione per contiguità nei gruppi di autocoscienza, cioè nella corrispondenza con le persone con cui si parlava, cioè nel rapporto, nella relazione si creava significato, un significato nuovo, diverso, in contrapposizione a un significato creato per astrazione, un significato strutturato e politico dei grandi ideali, dei grandi ideali, non so, questo, quindi è per quello anche il personale politico, allora, cioè, vediamo perché era un processo di significazione attraverso l'esperienza reale. Allora, poi nel tempo, allora, i gruppi a Milano, i gruppi in Italia sono diversi, sono tantissimi, e infatti è sbagliatissimo dire che esiste il femminismo in Italia, esistono tanti femminismi, tanti gruppi diversi, così come c'erano i gruppi, tantissimi gruppi politici, c'erano anche tantissimi gruppi femministi. Si dividono su diverse questioni, sulla questione per esempio del lavoro alle casalinghe, si dividono sulla questione del diritto del divorzio, dell'aborto, del salario alle casalinghe. Alcuni gruppi rivendicano il salario alle casalinghe o alle sulle leggi sull'aborto, le leggi sullo stupro, le leggi sulla violenza sessuale. E, cioè ci sono diverse componenti, diverse teorizzazioni di questo tipo. Allora, a Milano i gruppi sono, uno dei primi gruppi si chiama CCCCHOP, che era chiacchierare, milanese per dire chiacchierata, facciamo milanese, ed era un pre, era la rivendicazione, era le donne che rivendicavano per dire noi chiacchieriamo, ed è una cosa giusta chiacchierare, ed era uno dei primi gruppi. Poi da quel gruppo si fonda poi la libreria delle donne, il gruppo detto di Via Dogana, anche quello che ancora adesso è della libreria delle donne. E quel gruppo però ha un'eredità filosofica e teorica non solo nella Muraro, ma anche nei gruppi femministi francesi, e in particolare in uno che ha psicanalisi e politica. Psicanalisi e politica, che era stato fondato da Cristina Larigare, Lius Larigare e Anne Fouquet. Che poi si è un po' persa. Lui, che è quello che ha scritto i sessi sono due. Lo so, quella la conosco. E queste tre erano... La Lius Larigare è importantissima perché era... per favore. La Lius Larigare era una delle allieve più importanti di Lacan, di Jacques Lacan. Ed è quella che poi venne espulsa dal circolo Lacan perché in contrapposizione con il pensiero dominante. In contrapposizione con quel pensiero. E infatti poi lei si toglie dalla scuola lacaniana e sfonda con queste altre e questo gruppo. È bellissima la descrizione che fanno in una delle cose di questo libro sulla storia della libreria delle donne. Oh, io bisogna che vi saluto, ragazzi. Allora, loro descrivono queste ragazze e dice: la cosa che mi ha sconvolta è stato proprio anche solo vederle. Erano la negazione di quanto mi hanno sempre detto delle donne. Erano omosessuali, disordinate, caotiche, generalmente cercavano se stesse, non avevano paura di perdersi, erano tese in una continua ricerca, in una continua critica. Questo è il gruppo che arriva in Italia alla libreria delle donne. Da quando è che esiste? Dal 70, 71. Dalle prime anni 70 c'è già. Si chiamavano il gruppo di Via Dogana, perché la libreria delle donne era storicamente, adesso sta in un altro posto, ma forse per il gruppo di Via. È stato uno dei primi passaggi che ha permesso, dopo la Lonzi, in cui la psicanalisi non era così evidente, ma era, diventava l'autocoscienza, diventava una pratica politica. Aspetta.